già tardi. Giusto due parole sulla consultoria per chi non sa, non conosce bene la nostra storia e chi siamo e cosa facciamo. Il percorso della consultoria nasce moltissimo tempo fa, prima ancora della costruzione di questo posto, come ambulatorio, questa è la sede dell'ambulatorio medico popolare. Il progetto della consultoria nasce prima da un collettivo di donne molto giovani che avevano cominciato alla fine degli anni 80 a occuparsi di salute e avevano occupato questo spazio per la, che era uno spazio all'interno della casa occupata qua che non era rimasto non occupato c'era un arredo bagno fallito e avevamo occupato questo spazio con l'idea in un futuro di realizzarci all'interno una consultoria autogestita. Partivamo da una condizione un po' particolare perché all'epoca non è che mancassero le strutture di salute, diciamo così, per le donne, ma non trovavamo risposte che rispondevano, che soddisfaceva la nostra esigenza di salute. Da lì, successivamente poi alla costruzione dell'ambulatorio che ha trovato sede naturale dentro questo spazio, in seguito è partita anche la consultoria che è nata nel 95 con esperienza concreta e che ha avuto un andamento che, mi ripeterò, è un andamento carsico. Del gruppo iniziale della consultoria è rimasta qualcuna non ha proseguito nel percorso. Ad un certo punto negli anni 2000 la consultoria ha chiuso lo sportello perché non c'erano più le forze materiali di persone che lo tenessero aperto. E successivamente, quando l'ambulatorio è stato minacciato di sgombero nel 2008, decidemmo di non solo non chiudere l'ambulatorio, ma di rilanciare e di riaprire la consultoria. Un andamento un po' così. Quella che viviamo ora è un momento di riapertura. Abbiamo deciso di riaprirlo da poco, per il momento solo con uno sportello informativo. L'approccio che noi diamo e le cose che facciamo qua dentro è un approccio demedicalizzato e incentrato soprattutto sull'autoconoscenza, sull'autodeterminazione e appunto sulla conoscenza del proprio corpo e di decidere da sé senza paternalismi e senza troppi esperti che ci spieghino come funziona il nostro corpo, se non quando strettamente necessario. Abbiamo avuto anche un periodo con una ginecologa che è venuta a cercarci lei perché sapeva che tipo di approccio avevamo e la nostra storia è fatta anche in tutto questo, diciamo, saliscendi delle domande classiche, comunque anche molto di relazioni con il resto delle compagne che sono in giro per l'Italia. Con la coordinamento c'è da tempo una relazione, le iniziative fatte insieme e quindi nel momento in cui è uscito questo nuovo libro ci è sembrato importante ospitarlo e presentarlo. Non so se aggiungere altro, direi. Sì. Se poi ci sono domande specifiche sulla cosa. Va bene, anch'io dico due parole giusto per introdurre. Ma intanto grazie a noi Margherita di essere venute da Roma. E dico proprio due cose, io mi sono appuntata due robe, non leggo, è solo per paura di dimenticarmi qualcosa. Intanto il libro Femminismo, paradigma della violenza e non violenza, quindi una raccolta di atti, di iniziative che avete tenuto a Roma tra 2017 e 2021, quindi pre e durante, post pandemia, quindi questo è un po' il quadro. E un gruppo di compagne, la Coordinamento Femminista e Lesbica, insomma attivo già dal 2011 e questo ovviamente ne parlerete voi, di voi stesse, io ora solo un po' per introdurvi. Allora, leggendo il libro un po', abbiamo cercato di, insomma, di annotare delle parti, dei punti che a noi sembravano interessanti, che ci hanno colpito. Intanto, appunto, il libro è inquadrato proprio con questa chiave di lettura, violenza, non violenza e quindi monopolio della violenza, per cui all'interno del libro con questa chiave di lettura si analizzano varie cose, tra cui intanto ci sono delle esperienze di donne che la violenza e di compagne che hanno lottato agendola la violenza e quindi togliendo quel monopolio allo Stato. Per esempio si parla delle Black Panthers negli Stati Uniti, delle Rote Zora nella Germania dell'Est e poi anche unificata, come esempi proprio di azione pratica diretta di violenza agita come lotta rivoluzionaria, con delle appunto pratiche anche riproducibili. Questo lo dico io, per me è una cosa rivoluzionaria quando è anche un po' riproducibile, no? Quindi donne comuni come Rote Zora, come si definivano, che mettono in pratica una lotta partendo da sé. Io penso anche noi, quando ne abbiamo parlato, abbiamo trovato comunque questo libro profondamente femminista, nel senso che ci abbiamo ritrovato tanti di quei temi, spunti, pratiche, pensieri che in cui ci riconosciamo, per cui la non delega, l'autonomia, l'autodeterminazione, la questione del corpo, della cura. Perché appunto il corpo è sempre stato un punto di partenza per le femministe, e quindi della propria autodeterminazione e anche dei contesti che ci sono intorno. Quindi questo aspetto del corpo e della cura ci ha colpito, legato anche alla questione della comunità, quindi del creare una comunità, cosa vuol dire, che cos'è, chi è che stabilisce cos'è il bene comune. Come compagne, immagino vi siate poste nel libro, poi parlate anche di che cos'è il bene comune, e anche una comunità, chi è che la va a formare, su quali regole, chi vuole immaginare una società al di fuori di quella patriarcale e neoliberista, appunto, si pone queste domande, no? E quindi si chiede come possiamo ricostruire, costruire. E anche questo l'avete fatto nella lettura anche della questione della pandemia, dove lì sono, diciamo, si sono rese più evidenti, perché non è che sono nate lì, delle questioni legate proprio alla comunità, il bene collettivo, il corpo. E mi sembra anche voi, ma io mi associo a questa autocritica, che il femminismo radicale, cioè quello che vuole cambiare dalle radici, quello che ci accomuna, diciamo, come tipologia di femminismo, è stato un po' silente durante la pandemia e forse anche dopo, poi non si è più rimasticato quello che è successo, se non altro anche a livello collettivo come compagni. Quindi questo aspetto a noi è piaciuto, poi se sarà anche, possiamo anche discuterne, ci fa piacere se ne parliamo. Ci è piaciuto anche l'aspetto di cui avete parlato, di riconoscere chi è oggi il nemico, e anche quel senso comune che si è creato oggi, da dove è nato, come si è creato, quali sono le cause, quali sono i fattori che sono venuti a far creare questo senso comune, e anche qual è veramente oggi, diciamo, il cosiddetto nemico, per chi non ama il patriarcato, per chi non ama un sistema mortifero come quello capitalista. E quindi questi sono un po' di aspetti, ovviamente non sono solo questi, però diciamo che nella lettura questi ci hanno colpito, anche perché si sono andati a intrecciare con tutta la questione della pandemia e soprattutto anche della salute del corpo, che ovviamente come consultoria ci interessa, e anche di creazione di comunità, che non è la domanda del sé, nel senso è una domanda che ci si fa da tanto tempo, no? Noi che altro, come ci stiamo insieme, come ci organizziamo se non ci riconosciamo in una struttura patriarcale, statale, allora delle domande te le devi porre. E poi, ultimo, così poi chiudo, un altro aspetto, la questione della militanza. Ci è piaciuto questo partire da voi, per cui ognuna ha parlato di sé, partita da sé, ponendosi questa domanda, finendo anche con delle domande, quindi domande aperte che ci possono anche servire, o almeno per noi sono state da stimolo anche per capire oggi che cos'è la militanza, oggi cosa vuol dire lottare. E quindi poi ne possiamo parlare insieme. Io azzardo che conoscendovi, anche appartenendo un po' a questo, insomma, mi sono ritrovata in tantissime delle cose che avete scritto. Non so, l'ho quasi definito un manifesto femminista il vostro libro qua, perché non so, ho ritrovato tanti punti come da riprendere un po' le fila, però con un tentativo di aggiornarli all'oggi, no? Cioè, anche, visti anche i tempi che abbiamo appena passato e che stiamo anche passando. E quindi, boh, questo è un po'. Poi ovviamente ne abbiamo discusso di tante cose, però è bene che parliate voi del libro. E quindi lascio così queste due piccole note la parola a voi. Grazie. No, ma abbiamo... Grazie. Ma vuoi fare tu il racconto del gruppo? O... Sì, va bene. Ah, sarò, provo a essere sintetica perché sono tipo i grandi vecchi che non si ricordano benissimo tutti i passaggi, anche perché il nostro collettivo nasce nel 2011, in realtà da, e ci chiamiamo coordinamento anche per questo motivo, perché scegliemmo di cominciare a discutere di una serie di tematiche che riguardassero femministe con collettivi che venivano da varie parti di Roma, con singole, e quindi era, diciamo, aveva una composizione abbastanza eterogenea, per cui c'erano sia collettivi che persone o compagne che volevano semplicemente discutere. E poi nell'andare avanti ovviamente ci siamo un po' persi i pezzi, ci siamo un po' rimodulate, e quindi poi la coordinamenta è diventata quella che è, insomma, un collettivo a sé, quindi non più un coordinamento di collettivi ma delle compagne che hanno deciso di fare un percorso insieme, e un po' perché ne sentivamo l'esigenza, perché ci sentivamo che a Roma non ci fosse un contesto di analisi e condivisione politica in quel momento presente, quindi volevamo ricreare qualcosa che un po' coordinasse tutto. Poi in generale, come politica della città, c'è stato, diciamo, una specie di risacca, per cui insomma in generale le questioni dei movimenti anche femministi ovviamente hanno avuto, insomma, un momento di bassa, ma noi abbiamo comunque continuato a produrre, analizzare e tentare di fare iniziative su queste cose. Non le dirò in ordine cronologico, ovviamente, perdonatemi, però abbiamo fatto iniziative su quello che era l'amore romantico, quindi una critica all'amore romantico in vista del 14 febbraio, abbiamo parlato di lotta armata e quindi di come la lotta armata si rapporta in un incontro nazionale, invitando comunque più compagne possibile a partecipare, in cui abbiamo tentato comunque di sviscerare quello che era stato il ruolo della lotta armata, delle compagne, quindi della loro posizione, e cercando di analizzare i vari contesti. Anche là, se andate sul nostro blog, in realtà trovate tutte le nostre pubblicazioni scaricabili in PDF, quindi c'è tutto. Ciao. Il collettivo di cui facciamo parte si è occupato in questi anni, e stavo dicendo, appunto, abbiamo fatto un incontro nazionale sui ruoli della lotta armata, e quindi per tentare di comprendere, decostruire, analizzare quello che erano i ruoli sessuati e la lotta armata, quantomeno in Italia, e per confrontarci. Questo perché ci eravamo rese conto che molte delle compagne che avevano preso parte alla lotta armata, per esempio, non riconoscevano il femminismo, o comunque non si riconoscevano femministe, quindi c'erano una serie di interrogativi che ci premeva comprendere, e quindi abbiamo tentato, appunto, con tutte le compagne di, insomma, portare a galla tutte le domande che ci erano venute in mente. E poi c'erano stati vari incontri nazionali, perché invece prima di questo ne avevamo fatto uno sulla storia e la memoria del femminismo, sempre con tantissime compagnie da tutta Italia, che è stato anche, diciamo, che poi la riflessione sulla lotta armata è venuta anche un po' da là. Anche perché, diciamo, uno degli assunti del discorso politico che cerchiamo di mettere in piedi è quello di tenere insieme la lotta di genere e la lotta di classe, cioè comunque di articolare un discorso femminista, e grazie per la presentazione, per sottolineare che questo libro è molto femminista, perché chiaramente è il complimento più grande che ci potevi fare, tenendo però diciamo, costruendo un discorso femminista di parte, nel senso proprio di classe, per tenere, allora, il discorso sulla lotta armata anche in questo senso aveva questa dialettica tra i ruoli sessuati dentro a movimenti che comunque di liberazione. E poi ci sono, abbiamo avuto una trasmissione in radio per molti anni, sì, 5-6 anni. Sì, I nomi delle cose, in cui facevamo sia una critica all'attualità, quindi prendevamo notizie attuali e provavamo a commentarle con un'ottica femminista, però poi facevamo dei piccoli approfondimenti. Si chiamava I nomi delle cose proprio perché avevamo la necessità un po' di rinominare e ridefinire quali erano le parole esatte, perché viviamo un po' in un'epoca in cui le parole vengono un po' smosse, vengono un po' riposizionate a seconda poi dell'uso e della convenienza che serve, e quindi noi volevamo un po' rimettere i puntini sulle A. Puntini sulle A, e dentro questa trasmissione comunque sempre in quest'ottica di tenere insieme genere e classe, naturalmente anche razza, però tra gli argomenti che abbiamo affrontato molto anche partecipando poi alle mobilitazioni sono state l'antiimperialismo, quindi diciamo, terreno sul quale ci sono stati anche dei conflitti politici all'interno di Radio Onda Rossa, e le lotte sulla logistica, abbiamo fatto interventi nelle scuole. E adesso, alla fine, senza che rifacciamo tutto veramente sì, no, la somma, e adesso sono 2 anni che partecipiamo, quasi 3 ormai, che partecipiamo a questa assemblea romana contro il Green Pass, che si è costituita a settembre 2020 e ha raccolto, diciamo, all'inizio veramente molte persone, era molto molto larga come assemblea, anche composta non soltanto da militanti politici e compagni, ma anche da persone che avevano bisogno di ritrovare un momento di pratica e di discorso collettivo in tempi così di isolamento e di tristezza e con grandi anche conflitti emotivi con persone vicine che credo che tutti quanti abbiamo sentito, e quindi sono 2 anni e mezzo che facciamo parte di questa assemblea, infatti abbiamo portato anche l'ultimo opuscolo che quell'assemblea ha prodotto, che presenteremo il 22 a Roma, questa è la variante dell'indisciplina, e anche là effettivamente ci rendiamo conto, e questo è uno dei motivi, vengo al libro, le poche parole di introduzione, che in effetti al momento il discorso e la pratica femminista, intendendo il femminismo come movimento politico e quindi in questo senso di femminismo radicale, è molto utile, crediamo, alla pratica politica di tutti gli oppressi e le oppresse, perché crediamo che in questo momento il sistema di potere stia utilizzando degli strumenti di messa al lavoro dei corpi e di estorsione della partecipazione degli oppressi al sistema di oppressione, e quindi diciamo una gestione a tutto campo dei subalterni che rispecchia tantissimo le modalità con cui il patriarcato ha messo al lavoro e ha diciamo controllato il corpo invece femminile della società, dividendo i ruoli, come se al momento ci fosse un uso degli strumenti propri del patriarcato, no? Molto paternalistica l'impronta che abbiamo, che viviamo adesso entreremo un po' più nello specifico, anche se stanno un po' saltando i ruoli sessuati, nel senso che effettivamente sono strumenti che vengono usati su tutto il corpo sociale, a prescindere dal genere, maschi e femmine sempre di più sono sottoposti alle stesse forme, non che questo annulli effettivamente tutto il piano del conflitto ovviamente di genere che ancora c'è, però in questo senso pensiamo che il discorso e la pratica femminista adesso siano molto utili da portare fuori, perché possono aiutare nell'impostazione delle lotte tutti quanti. Questo libro nasce infatti appunto nel 2017, cioè questo libro, gli incontri da cui questo libro riuniscono, nascono nel 2017, subito dopo un'altra iniziativa a cui ci avevano chiesto dei compagni di partecipare, che era sulla guerra di Spagna, e ci avevano chiesto di parlare dell'esperienza delle Mujeres Libres, che erano un gruppo di compagne che prima diciamo, della guerra, quindi durante la Repubblica erano molto attive, avevano consultori come questo, praticavano gli aborti, avevano, diciamo, una autogestione delle proprie esigenze, del proprio corpo a tutto tondo, e che poi hanno combattuto durante la guerra civile insieme a tantissimi altri gruppi, e che subito, come accade sempre, sono state le prime ad essere disarmate. Per cui in quel periodo ragionavamo su questa dinamica della monopolizzazione della violenza da parte dello Stato, ma come questa monopolizzazione si associ nei confronti delle donne sempre ad un disarmo unilaterale anche dentro i movimenti di liberazione. Sono le prime a cui vengono tolte le armi, è noto, è successo anche alle nostre partigiane, e non è una cosa, diciamo, cioè molto è risaputo. E però era anche il periodo in cui era il 2016, stavano 2015-2016, stavano passando in questo paese tantissime riforme altamente peggiorative delle condizioni materiali, di vita, della qualità della vita, come la buona scuola, il Jobs Act, il collegato lavoro. C'era un momento di attacco con il governo Renzi, ma non che questo costituisce una specificità, perché sono altamente intercambiabili come programma economico, però era un momento in cui c'era una forte spinta di riforme in senso peggiorativo, e trovavamo invece in giro per le assemblee, nei percorsi politici e nelle lotte, una grossa difficoltà a impostare delle lotte in risposta a queste riforme, che si incentrassero solamente sul rifiuto di ciò che veniva proposto e anche sulla diffusione di pratiche antagoniste e soprattutto illegali, anche forme, diciamo, di lotta non violente, perché il boicottaggio, il non pagare un biglietto della metro piuttosto che non pagare le bollette, piuttosto che rifiutarsi da parte degli studenti di praticare l'alternanza scuola-lavoro, sono tutte forme di lotta non violente, che però sono illegali. E c'era invece una grossa difficoltà da parte dei percorsi politici di cui facevamo parte a tentare almeno di impostare una lotta del genere. Poi magari non ci riesci per motivi contingenti, per problemi pratici, però per esempio allora i contatori dell'elettricità non erano questi nuovi centralizzati, quindi effettivamente forse un boicottaggio delle bollette l'avremmo potuto ancora mettere in piedi senza che ci staccassero la luce da un momento all'altro. Quindi abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che lo scivolamento sul terreno del senso comune, la criminalizzazione delle forme di dissenso politico che stava agendo a tutto tondo, stava penetrando anche dentro i movimenti, che cominciavamo a fare fatica a impostare delle lotte antagoniste. Ed è, diciamo, su questo terreno della trasformazione del senso comune che abbiamo deciso di utilizzare questo prisma della violenza non violenza come chiave di lettura per cercare di in qualche maniera riunire tutti i puntini di una strategia di governo complessiva che stava acquisendo dei connotati ulteriori. Cioè, c'è la repressione diretta del dissenso politico, soprattutto chiaramente adesso sono mesi che stiamo tutti partecipando e sostenendo la lotta, per esempio, di Alfredo Cospito. Quella è la punta di diamante del sistema repressivo, diciamo, militare esterno, che a tutti quelli che non si allineano riserva il carcere o le multe amministrative o addirittura la tortura di Stato come il 41 bis. Però c'è anche tutto un altro binario di repressione che non si fonda su questa minaccia della sanzione, della coercizione esterna, ma invece è molto più persuasivo, molto più, diciamo, capillare e a tratti anche invisibile. E i meccanismi, diciamo, e quindi era la volontà di affrontare questo doppio binario repressivo e premiale che ci ha indotto a fare questa serie di incontri, in cui da una parte abbiamo cercato di riprendere la storia e la memoria, perché un meccanismo di gestione del potere chiaramente è anche la distorsione fraudolenta dei movimenti antagonisti, della memoria degli oppressi, eccetera eccetera, e da una parte recuperare quelle esperienze storiche e dall'altra fare un passo ulteriore per cercare di capire come si fa oggi da femministe e anche come movimenti antagonisti a non pensare con la testa del nemico nel momento in cui il potere si fonda non soltanto sulla repressione ma anche sulla stimolazione della partecipazione degli oppressi alla gestione della società, cioè al loro stesso sistema di oppressione, come e in questo senso qua viene il discorso femminista, perché la nostra messa al lavoro comunque le femministe hanno teorizzato da tanto tempo come siano soprattutto i meccanismi di estorsione del consenso, diciamo, di tipo affettivo, che inducono le donne a sobbarcarsi il lavoro di cura insieme al lavoro produttivo, insieme è la minaccia dello stigma sociale, è la quindi ci sono delle forme apertamente estorsive del consenso e anche invece delle forme premiali e di partecipazione che si stanno sempre più diffondendo e che in queste, come per questo il titolo anche di questo incontro, di questa presentazione, cioè servitù volontaria, ribellione necessaria. Ci sono, appunto, ripeto, c'è una svolta anche in questo momento preciso repressiva in atto molto forte, perché siamo in tempi di guerra, siamo in tempi di emergenza, c'è una crisi economica, quindi comunque lo Stato ci deve far capire che chi esce dai binari verrà incarcerato e punito severamente, però ci sono anche tutte queste altre forme, diciamo, molto più subdole, ad esempio la meritocrazia, vi citavo prima la buona scuola ha avuto questo significato di imporre, diciamo, di diffondere una pratica dell'ipervalutazione, anche, diciamo, in termini molto quantitativi, che rende tutti quanti più ripetabili, gli studenti perché devono imparare la pappardella e gli insegnanti perché comunque se devo imparare la pappardella un insegnante vale l'altro, non è che quindi... Cioè, la cultura della dilazione, per cui nei posti di lavoro si stimola il collega a fare la spia se quello lavora di meno, ma anche delle cose molto carine, tipo la conformazione dei bagni dentro i posti di lavoro. Gli italiani hanno questo primato di aver inventato dei sistemi, dei WC da mettere nelle aziende che sono inclinati verso il basso, così il dipendente non è portato a stare tanto al bagno e ritorna subito a lavorare. Questo è un design, no? Quindi chiaramente io ti sto spingendo a lavorare di più, ti sfrutto di più, però tu neanche te ne accorgi, è solo che stai scomodo e quindi torni alla tua scrivania invece che leggere la rivista e farti la tua mezz'ora al bagno tranquillo. E l'altra cosa che abbiamo, gli altri due meccanismi che abbiamo indagato di più sono tutto quello che adesso viene chiamato il terzo settore, che ha contribuito a una spoliticizzazione dei movimenti, perché molti da militanti sono diventati attivisti e si sono messi a partecipare alla gestione dei grossissimi problemi, pensiamo a tutto il settore dell'immigrazione, pensiamo anche al settore dell'educazione, dei servizi alla persona, dell'assistenza, eccetera eccetera, per cui c'è stata proprio là in massa e anche con una spinta europea molto forte questa stimolazione del partecipare, tu facevi dei progetti politici, devi smettere di usare certe parole d'ordine troppo conflittuali, prendere i soldi statali e gestire tutti quei servizi sociali che io, Stato neoliberista, invece sto tagliando con i tagli alla spesa pubblica. Quindi il terzo settore e poi questa forma, diciamo, estremamente paternalistica che abbiamo visto in azione anche durante la pandemia, che gli americani hanno teorizzato anni fa e che chiamano nudging, o addirittura, come i loro autori rivendicano, la tecnica di governo del paternalismo libertario, per cui invece che, appunto, dire devi fare imporre dei comandi assistiti da sanzione, io ti spingo a compiere delle scelte che io, Stato, che ho più informazioni di te, che sono più razionali di te, eccetera eccetera, so che ti faranno del bene, no? Quindi chiaramente il paradigma di riferimento è quello dell'homo economicus, cioè sono tutte scelte, diciamo, di stampo che ovviamente chiamano a un'adesione a questo sistema economico, a questo sistema sociale, però in questo modo, diciamo, paternalistico, tanto che tantissimi anni fa già l'aveva adottata Rudolf Giuliani questa tecnica, quindi insieme alla tolleranza zero, per cui se spaccavi una vetrina, la terza volta buttavano la chiave e ti davano l'ergastolo, accanto c'erano tutti questi meccanismi tipo devo risolvere l'obesità, e invece che aumentare il reddito delle famiglie, creare non so, più centri sportivi eccetera, no, nei supermercati per legge si devono mettere le bevande gassate in alto sugli scaffali, così che non vedi subito la bevanda gassata, oppure, cosa tra l'altro super classista, non vendere le bevande gassate in confezioni da 2 litri, per cui risparmi, ma soltanto da 50 cl, così quelli continuavano a bere le bevande gassate e spendevano quelle di più. Comunque, tant'è che i compagni hanno fatto dei manifesti molto belli in cui c'era Rudolf Giuliani come Mrs. Doubtfire, no? Quindi contro lo Stato, contro il sindaco Balia. Tutti questi discorsi, a un certo punto abbiamo fatto questi scirivi di incontri, è arrivata la pandemia e effettivamente queste traiettorie sono state super visibili. E là, appunto, nel libro prossimo ricomincio a parlare, perché a proposito del pensare con la testa del nemico, per cui ci siamo ritrovati in questo contesto in cui diciamo, abbiamo visto all'opera un vero e proprio feticismo delle regole da parte di moltissimi, purtroppo anche compagni, quindi si sono creati, cioè la pandemia ha agito creando dei contesti obbliganti che non lo erano di diritto, no? Perché effettivamente c'era un'ipocrita, diciamo, c'era l'illusione che tutti potessi non vaccinare, a meno che non fosse una categoria che rientrava nell'obbligo, diciamo, come gli over 50, i sanitari, gli insegnanti, eccetera, ma il resto della popolazione si diceva puoi non vaccinarti, dopodiché non fai nulla, non vai, non puoi assolutamente vivere la tua vita, però ti puoi non vaccinare, no? Cioè la tecnica del contesto obbligante per cui io ti lascio apparentemente una facoltà di agire, ma in realtà ho strutturato tutto l'ambiente affinché tu quella scelta non la possa esercitare. Però abbiamo visto anche in atto appunto una sorta di feticismo delle regole, dicevo, perché in effetti questo Green Pass è diventato nella testa di molte persone come una sorta di premio. Faccio un esempio e poi mi taccio. Vado a trovare mia sorella a Berlino all'aeroporto durante, mi sembra che era il 2020 proprio, il 2021, non mi ricordo, comunque inizio, ancora nel pieno periodo, e non era necessario il vaccino Green Pass, altrimenti non ci sarei potuto andare banalmente, bisognava soltanto mostrare il tampone negativo. Al ritorno andava così, c'erano tutti italiani davanti a me al desk e volevano tutti quanti mostrare anche il Green Pass con la hostess che facciamo a fare, no, mi serve, quindi ci abbiamo messo 3 ore e un quarto in bagaggi perché loro dovevano assolutamente mostrare il Green Pass, perché io l'ho fatto, sono stato un bravo bambino, sono stato liggio alle regole o una brava bambina, e quindi adesso pretendo che la mia adesione, la mia professione di conformità venga riconosciuta, venga premiata, e altrimenti che cosa l'ho fatta a fare? E quindi, diciamo, secondo noi su questi terreni, soprattutto, diciamo, soprattutto sulla dichiarazione, sull'adesione che il sistema ci chiama a dare, nel senso che viviamo in dei tempi in cui non soltanto, cioè, non ti lasciano, non è più tanto data la scelta di non partecipare e basta, ok? Io non confliggo, non mi metto nei guai, non faccio le manifestazioni politiche, non rompo le palle sul posto del lavoro, cioè sto abbastanza, tengo un profilo basso e nessuno mi... non è più tanto così, nel senso che tu comunque devi dichiarare la tua adesione, devi dichiarare la tua conformità al sistema, perché altrimenti anche in quel caso non vai troppo bene. E vi lascio con questa sulla dichiarazione di conformità. Ho trovato dentro a questo libro di Frédéric Lordon, che è uno che ha partecipato anche alle alle lotte in Francia e continua a farlo, ha trovato questo artista che si prende gioco di queste dichiarazioni di conformità che vengono chieste ad esempio sui posti di lavoro. Quando fai un colloquio adesso non devi soltanto dimostrare di avere delle competenze specifiche, ma soprattutto quanto vuoi lavorare in quell'azienda, quanto credi in quell'azienda, le aziende piramidali, no, sono diventate. Io all'università, per esempio, ogni volta che cerco di prendere altri assegni oppure altri posti, devo fare la dichiarazione sulla terza missione, come la mia presenza in quell'ateneo contribuisce al discorso della sostenibilità, dell'inclusività, dell'integrazione, della coesione sociale, della parità di genere. Puntualmente io non le faccio, infatti non fanno tanto. Allora, questo artista dice, scrive a un'azienda, no? Ce le scrive in relazione all'annuncio comparso sulla rivista Carriera e Lavoro. Le giuro che non ho mai fatto niente di male, non mi drogo, amo gli animali, non rubo, faccio la spesa al supermercato come tutti, pratico uno sport per tenermi in forma, un po' più avanti vorrei un figlio, due e un cane, avrei anche l'intenzione di diventare proprietaria immobiliare e di comprare delle azioni. Ho dei testimoni che mi hanno visto non fare niente, non capisco di cosa sarei colpevole. Non capisco perché lei voglia punirmi con lavori forzati su banche dati. La prego di non assumermi. La cosa bella è che l'azienda risponde, perché probabilmente sta rispondendo un algoritmo, no? Quindi l'azienda risponde. La ringraziamo per la fiducia espressa. La ringraziamo per la fiducia espressa nei confronti della nostra azienda, nonostante l'interesse rivestito, il suo profilo non va bene, però no? E qua perché effettivamente la tecnologia funziona come messa proprio a sistema di tutti questi strumenti, per cui consente un controllo ancora più generalizzato e un'estorsione del consenso messa proprio a sistema. Bene. E allora, prendo la palla io, sono Ani. Allora, io vi volevo parlare della parte, diciamo, secondaria del libro. Però volevo fare una postilla minuscola, perché volevo sottolineare questo che sicuramente avete già compreso, però il fatto che siamo arrivate a discutere in realtà del Covid, di quello che è comunque appunto una servitù volontaria eccetera, in un libro che parla in realtà del paradigma violenza non violenza, è perché siamo profondamente convinte che questo sistema di imposizione, di oppressione, diciamo più soft rispetto a quello dello scontro diretto e quindi dell'imposizione dall'alto come poteva essere decenni fa, sia molto più violento e molto più disarmante di quanto poi... cioè non è un confronto reale quello che vogliamo fare, però effettivamente sulla nostra pelle sentiamo comunque un'incapacità maggiore a capire come rompere questo sistema rispetto a prima, quando diciamo che le pratiche, le dinamiche da mettere in atto sembravano comunque in qualche modo di facile interpretazione, di facile analisi, e ad oggi invece ci sembra molto più subdolo quello che il potere in realtà mette in campo, la modalità con cui agisce, e quindi tutto quello che ci riguarda come compagne è molto più oscuro da sondare. Il Covid è vero che ha reso tutto questo più facile da vedere, però appunto, come diceva Margherita, ci siamo trovate comunque in una situazione in cui per compagni e compagne che pensavamo più o meno quantomeno dallo stesso lato del fiume non erano dallo stesso lato del fiume, perché appunto queste grosse contraddizioni hanno comunque sottolineato delle differenze profonde che forse fino a quel momento neanche noi avevamo il coraggio di vedere, non volevamo vedere magari, non erano chiare, e quindi un po' si è tracciato una cosa, un filo di divisione, e quindi io vi volevo parlare in realtà della seconda parte, dell'ultima parte del libro, che è quella un po' di analisi, che parla della militanza. Perché siamo arrivati a parlare della militanza? In realtà è successo abbastanza per caso. Abbiamo trovato questo video degli anni 70 che si chiama Lotta in Italia, che è il titolo mai più sbagliato nella storia, perché non parla del lotto in Italia, ma parla della militanza, quando addirittura la RAI faceva comunque dei documentari, o comunque servizio pubblico per davvero. E E c'è questa compagna che nel video, in varie scene, analizza la sua militanza, quindi analizza la sua militanza in luoghi dove è normale agire la propria militanza, però poi confronta questo con i luoghi che vive nella quotidianità, quindi il suo lavoro, lei è un'universitaria, quindi come reagisce lei all'interno dell'università? All'interno dell'università lei è un numero. E lei non si ribella al fatto di essere un numero, cioè quando viene chiamata agli esami non viene chiamata come Tizia Caia, ma viene chiamata 410. E lei non si ribella a questo. Quando lavora, che dà ripetizioni a un ragazzo che ha delle domande, lei comunque ha la necessità di chiudere la lezione, sta lavorando, deve chiudere quello che è il suo lavoro, cioè insegnargli a fare quelle operazioni, le equazioni. Devo farti fare le equazioni, non mi posso mettere lì a parlare con te e a... perché poi se no il mio lavoro non verrà retribuito, perché i tuoi genitori diranno: ma questo non sa fare le equazioni, quindi io non ti pago più, oppure ti pago fino ad oggi ma tu non venire mai più. E quindi lei non parla di politica ma parla di equazioni. Lo stesso a casa, i genitori che la criticano perché sta sempre fuori, perché è una donna, una ragazza, quindi comunque le pongono delle cose, però lei non dice niente, si mangia la sua minestra e dice: vabbè, fammoli parlare, e poi lasciamoli parlare, e poi basta, no? Non è che contesta o mette a problema la sua famiglia. Poi c'è un'altra parte del documentario in cui invece lei comincia a mettere, c'è anche la coppia ovviamente, lei e il suo compagno. Quindi tutte queste cose poi dopo nella seconda parte vengono messe ad analisi, e quindi lei comincia a farsi delle domande. Da lì quindi ci è venuto in mente: ma noi, quindi la nostra militanza, come la viviamo? Cos'è la militanza per noi? Quindi all'inizio abbiamo lasciato un po' la domanda aperta e ci abbiamo ragionato. E poi abbiamo cominciato a, cioè abbiamo deciso di fare delle iniziative, due iniziative in cui discutevamo su che cosa fosse la militanza. E venivamo da tre, ovviamente, esperienze completamente, cioè, ma completamente no, perché io e Marghi abbiamo più o meno un vissuto abbastanza simile, quindi l'unica differenza tra me e Marghi era che io facevo parte di un posto occupato e quindi avevo, diciamo, delle emergenze continue e quotidiane di gestione, però poi comunque era anche il periodo dell'onda all'università, quindi comunque tutte e due eravamo super oberate, no? da questa militanza che premeva su di noi. Però ci siamo domandate se la militanza fosse qualcosa che arrivasse poi realmente nelle nostre esistenze. Poi c'è venuto un altro problema. Per quale motivo in quest'epoca tutte quante si definiscono attiviste e non militanti? In testa c'è anche venuto in mente che magari per alcune la parola militanza possa ricordare in qualche modo l'essere militari, e un po' lo è, perché effettivamente la militanza insiste un po' su un comportamento che è perpetuo, continuo, di completa immersione in quello che è il proprio ideale, no? Quindi è un po' è molto simile a quello che viene chiesto un po' ai militari, no? Di credere, cioè di stare lì e di con tutto il corpo di stare in quel contesto, in quella situazione. E quindi può anche non piacere questo termine, però a livello politico ci piace. Noi abbiamo deciso che ci piace molto di più l'essere militante, perché come femministe ci rappresenta molto di più, cioè il mio essere femminista, il nostro essere femminista non è qualcosa che è solo in un contesto o va a minutaggio, cioè non è che io da quest'ora a quest'ora sono femminista, poi torno a casa non lo sono più, no, è qualcosa che ci invade e quindi è prepotente, per cui usare un termine che ricorda qualcosa di militaresco in realtà non ci dava fastidio, ci dava molto più fastidio declinarlo in un termine come quello dell'attivismo che ci ricorda tantissimo il volontariato. E noi aborriamo il volontariato, ma proprio profondamente. Non perché poi la militanza non comporti ore e ore di lavoro completamente gratuito e dedicato a quello in cui crediamo, assolutamente no, cioè le differenze ovviamente sono proprio labili, però quantomeno c'è un ideale politico, una linea di tendenza, un obiettivo in cui in realtà io vorrei arrivare, che nel migliore, cioè nel, proprio nel più brillante dell'immaginario è quello della rivoluzione. E quindi questa linea di tendenza, il dire voglio la luna, non è tanto perché devo per forza ottenere la luna, ma la mia tendenza è quella di desiderare la luna, di voler ottenere la luna, di arrivare fino a lì, e quindi anche il mio comportamento, il mio desiderio va in quella direzione. L'attivismo ci sembra sempre qualcosa che invece ha le radici un po' tendenze verso la terra, che è aggrappato a quello che è la logica e la pratica, ma la pratica intesa proprio come manualità, e quindi ci è un po' ostico. E ci sembra anche che il potere abbia deciso di eliminare piano piano la parola militanza, che prima veniva utilizzata anche in contesti diversi da quello del femminismo, o quello delle lotte sociali o di questi contesti, per sostituirla con quello dell'attivismo, perché una parola, è un concetto, è una pratica molto più facile da veicolare, da muovere a seconda tu vuoi. Per cui lottare per i diritti sociali e i diritti civili è più facile che lottare per la rivoluzione. E quindi, perché sono cose che teoricamente tu puoi chiedere, vagamente ti possono essere concesse. In teoria, almeno per noi, la militanza non deve lottare per quello che tu chiedi, cioè tu non chiedi nella militanza, ma lotti per. Tu pretendi che quella cosa sia tua, sia nostra, sia di tutte, ma non deve essere una singola richiesta che tu fai all'istituzione, al potere, che lui ti concede, perché se lui te l'ha concessa in realtà è manovrabile, e questo l'abbiamo visto, non è che l'abbiamo detto noi, cioè ormai è palese a tutto che qualsiasi cosa tu chiedi poi viene ribaltata contro di te. Mi sento di fare l'esempio, visto che siamo nella consultoria, per esempio su quello che riguarda i consultori. Per quello che è stata la nostra esperienza, sono luoghi che molto spesso i consultori di Stato ovviamente veicolano comunque il pensiero del potere, dello Stato, per cui tu non sei realmente libera di fare ciò che vuoi, tu comunque vieni giudicata da quello che è il medico di turno per le tue scelte, per i tuoi desideri, e quindi ci siamo posti anche il problema su questa questione, cioè nel senso, anche quando ti è stato elargito qualcosa, comunque beh, questo dono che ti viene fatto intanto può essere può ritornare indietro in qualsiasi momento, cioè non ha una scadenza a indeterminato, è sempre determinato e tu non sai mai quando scade. In più comunque veicola sempre dei voleri che sono quelli dello stato di controllo, quindi il controllo sul nostro corpo, almeno per quello che è stata la nostra esperienza nei consultori di stato, è stata quella comunque che il nostro corpo veniva controllato, veniva manovrato in base a quello che erano poi le linee guida del Ministero della Salute. Non è che andavi là e potevi parlare. Perché a noi c'è proprio successo, e questo beh, si parla proprio all'inizio, prima della coordinamenta, questo è successo a me e a Margherita, di andare in un consultorio, fare delle domande perché volevamo interagire come compagni col consultorio del quartiere in cui facevamo politica, e trovare dei muri di cemento armato, perché nel momento in cui abbiamo provato a mettere a critica determinate pratiche che avevamo visto, non lì dentro, ma di cui sapevamo, loro hanno messo un muro perché andavamo contro la loro istituzione, e quindi loro si sono sentite in pericolo. per cui non ci hanno più risposto, e da lì è morto questo, questo tentativo di relazione che avevamo, volevamo avere con il consultorio di zona. E, quindi la militanza è, cos'è per noi? Per me è una continua contraddizione, però questa non è una questione negativa, cioè nel senso non è una cosa negativa. L'essere una continua contraddizione è semplicemente dovuto al fatto che in continuazione io e noi ci poniamo di fronte a quello che è l'esistente, a quello che sono anche le mie corde, e quindi mi trovo in contraddizione con quello che tra l'altro è il nostro vissuto quotidiano, che è in contraddizione con quello che è l'essere compagna, perché ovviamente viviamo una società che ci espelle, non ci vorrebbe così come noi vorremmo essere, ma vorrebbe altro, comunque vorrebbe qualcuno che non desse fastidio. E ovviamente essendo compagna, in qualche modo tu vai a rompere dei gangli, o vorresti rompere dei gangli che ovviamente il potere non ti vuole dare, non ti vuole dare accesso nemmeno ad arrivarci. E in più io per esempio credo che due cose, poi mi sto dilungando troppo. Uno, che per esempio in quanto compagna e madre mi sono trovata in difficoltà all'inizio nel dire ora come traduco la mia militanza, come faccio, visto che il mio tempo è diminuito, la mia capacità anche logica di stare presente a me stessa è diminuita, cioè io adesso sto qua, però nella normalità io a quest'ora sono finita. E quindi come faccio, come mi metto in gioco? E non ho trovato tutte le risposte, perché poi penso ognuno abbia le sue, però sono convinta che già farsi queste domande sia comunque mettere in moto il meccanismo che alimenta la militanza, perché la militanza penso che generi sempre solo domande, ma è in continuo, cioè ogni step della nostra esistenza sia comunque generare nuove domande che ti stimolino a aumentare la tua percezione, a capire te stessa e il mondo che ti circonda, a farti più domande su quello che è il contorno, anche su te come reagisci all'esistente. E l'altra cosa che mi premeva dire è che se è vero che c'è il potere che opprime la militanza e che non la riconosce, che prova a smembrarla completamente, c'è anche un'altra cosa che purtroppo viene da quello che è dai compagni, dai movimenti, e quindi prendetela a ridere. Non so se anche qua c'è, però a Roma si scherza molto su questa cosa dei punti militanza. Quindi come si comporta un bravo militante, e quindi c'è il militante che si sacrifica di più al mondo avrà più punti. Ma secondo me la militanza non è questo, nonostante io abbia vissuto un periodo della mia vita in cui mi sono sacrificata per la militanza col sangue delle vene. Però secondo me bisogna destrutturare anche questa tendenza che c'è all'interno dei movimenti, che tende ad essere moraleggiante, quindi ad avere un'ottica troppo moralistica su quello che è la militanza, per cui addirittura dall'interno in qualche modo ci boicottiamo, perché non diamo spazio ad ognuna di essere la militante che vuole essere, e quindi con le sue pratiche, le sue modalità, ovviamente rispettando, come dicevo, una linea di tendenza che è comune e che ingloba tutte, ma giudicando le azioni, la quantità di tempo e quante cose hai fatto e come le hai fatte, eccetera eccetera, si tende in alcune situazioni, non tutte ovviamente, ad avere un approccio secondo noi eccessivamente moralistico, e quindi questo frena. È come se ci fossero due freni, uno che viene dall'esterno, che è ovviamente la società, il sistema di potere, il neoliberismo, il patriarcato, eccetera, che ti frena, che prova a annientarti, e l'altro, che sicuramente è più bonario, non ha questa volontà in sé, però che non si rende conto comunque di essere frenante, di dice, e che tenta di creare un po' il l'esemplare migliore di militante. Non c'è un esemplare migliore di militante, ma ci sono tante militanti, tanti diversi modi di essere militanti, non c'è un modo giusto o sbagliato, anche perché in realtà sarebbe ci diamo la zappa sui piedi da sole, perché se già al nostro interno ci giudichiamo e non su effettive e reali questioni che sono di natura politica, ma ci giudichiamo sul nostro comportamento, stiamo facendo esattamente lo stesso gioco di giudizio, di moralismo che il sistema di potere ha messo in atto, anche perché, come Margherita ha detto benissimo, il potere appunto non ha più necessità di doversi contrapporre a te, ma si insinua in realtà nelle nostre vite e ci riesce a soggiogarci in maniera quasi delicata. Appunto, quello che è successo col Covid, secondo me, un po' ci dà la quadra, cioè nel senso, è bastato mettere là due cavolate sul vaccino, non vaccinarsi, un Green Pass, eccetera, buttato anche un po' a caso, perché non è che era tanto strutturata la questione, per cominciare a fare fazioni di giudizio morali su tu sei bravo, io non sono bravo, tu metti a repentaglio la salute di tutti, tu no, e creare i buoni e i cattivi, fare la guerra tra i poveri fondamentalmente è questo, cioè chi si adegua alle regole è bravo, come i bambini, no? È un po' infantilizzante questo metodo di oppressione, perché se ti infantilizzo riesco a controllarti meglio, perché i bambini sono facili da controllare, perché c'è un potere che li gestisce, e quindi con noi funzionerà allo stesso modo, per cui non c'è bisogno più che mi contrappongo, lo Stato fa il nostro bene, per cui sei tu scema che non ti adegui, perché io ti sto tutelando. E secondo me bisogna rompere questa cosa, evitare di creare delle situazioni che tendano al moralismo o al comportamento perfetto, perché non c'è questo, e perché poi lo Stato si inserisce in questa spaccatura, creando comunque poi delle divisioni ulteriori, depotenziando quello che poi è la nostra possibile potenza. Grazie. Non so se ci sono domande. Perché se qualcuno vuole fare un intervento anche semplicemente senza fare domande, ripeto alle nuove che sono entrate, quando ancora non l'avevo detto, noi abbiamo registrato l'audio di questa iniziativa, e se ovviamente qualcuna non volesse essere registrata a livello audio ce lo dicesse, spegniamo il registratore, non c'è assolutamente problema. Noi lo usiamo perché ci piace pubblicarlo, ma per far sì che si diffonda più possibile anche le discussioni che avvengono, quindi sentitevi liberi, insomma, di chiederci di spegnere la registrazione in caso. Io volevo solo dire due parole da aggiungere a quello che stavi dicendo tu sul fatto appunto della militanza e del fatto che ci sono diversi modi nei quali appunto con il corpo vivere la militanza, e legando al discorso dell'uomo economico si venivano altre due parole da aggiungere, che sono anche il leaderismo e la forte competitività, che secondo me stanno sempre un pochino dentro a questa macchina di auto, diciamo così, distruzione, che diventa un'auto repressione. Da questo sempre sulla questione appunto ateismo o militanza, secondo me c'è anche tutto il discorso legato sempre alla violenza, al fatto che la parola militanza non solo appunto riguarda il militare dal punto di vista della pervasività della questione, come detto prima, ma anche al fatto che c'è comunque una sorta di violenza, no, nel termine militanza, appunto soldati che va sul campo, fa cose, e al giorno d'oggi con la pacificazione sociale, che poi altro non è che repressione, ovviamente questa cosa mal vista, e quindi militante no, attivista pulito, bello preciso, allora sì, quello ci piace, come l'attivismo social, tutto bello pulito, tutto bello tranquillo, quello va bene. E questa cosa secondo me è anche abbastanza indicativa, anche appunto tutto l'attivismo più o meno liberal che c'è adesso, niente di male con, come dire, condividere anche le questioni anche online, che comunque c'è, cioè, uno strumento, internet, ci mancherebbe altro. Però il rischio poi è che diventi tutto molto all'acqua di rose, che quindi poi appunto si faccia il gioco del potere sostanzialmente, come tutte le questioni che poi vengono risciacquate, rivendute, perché poi è sempre quello, è il punto, è rivenderti qualcosa, e quindi le magliette con su scritto, non so, si te stessa, non so, si, per cose di, un po' l'attivismo alla fida, quel, che canta in mezzo. Infatti non torna un concetto piddino, cioè questa piddina, nel senso... Ci sta un po' tutto, però cioè, sempre un po' rispetto alla militanza, cocciamo un po' con l'analisi, perché dipende dall'obiettivo che ti dai, nel senso che un conto è i collettivi, le assemblee, parlano i soliti due uomini, fanno l'intervento, tutti gli altri sono gregari, eccetera. Però cioè, in subito poi tendenzialmente nella pratica chi c'è? Cioè non è una questione del moralismo che mette in discussione le persone che fanno più o meno, nel momento in cui si chiede di esserci, ci devi essere, se per te è, ha una valenza, se no prima dici no, guarda io sto al 20% perché ho altre cose da fare, che sono un po' più importanti, che, cioè, ma questo vale rispetto a mettersi d'accordo un attimino, nel momento pre, poi rispetto alle varie assemblee, riunioni, eccetera, cioè ce ne sono subiti un po' tutti, sempre le mediazioni maschili in cui non capisci dove vanno un po' a, cioè prendono le loro decisioni, tu sei lì a chiederti che quali decisioni sono, io devo chiedere ovviamente. Maschile o femminile? No, io prettamente maschile, femminile, io mi sono veramente capitati molto pochi. Io metto, intervengo, dico la loro, tu sei lì a chiedere, le compagne sono sempre, cioè pochissime intervengono nelle assemblee cittadine, pochissime proprio, intervento etero diretto, devono dire la loro, cioè mai di condivisione, cioè non c'è, l'assemblea non è un momento di condivisione, cioè semplicemente hanno deciso poi. Altre sedi, si telefonano, decidono, cioè questo è un problema scardinale, non è tanto la moralità, è la modalità. No, ma cioè, sono due cose diverse, però sì, sono assolutamente due, cioè forse perché non mi sono spiegata la cosa dei punti militanza, cioè nel senso intesa come tu ti comporti meglio, era un po' una seconda, cioè come se fosse un secondo step rispetto a quello che dici tu, anche se concordo pienamente con quel, cioè mi sono ritrovata con la situazione che dicevi tu un miliardo di volte, cioè nel senso in assemblea in cui appunto c'era un maschile più forte che poi alla fine ti imponeva una decisione e non c'era modo di appunto di discutere, o cioè le cose erano già decise, quindi questo assolutamente deciso, al massimo ci sono gli scazzi, si telefonano, funziona così, quindi cioè noi facciamo, cioè noi, chiunque fa semplicemente da contorno, questo è che cioè a un certo punto o lo scardini, cioè è la volontà di scardinare, prendere parole, iniziare a dirla tu, o se no cioè a subire, nel senso, cioè la modalità non è, cioè la cosa che dico, o si interviene, cioè si è presenti, o se no, cioè, non so, 40 anni, 50 anni. c'era la compagna. Poi le cose si collegano, perché essere presenti sì, ma come, no? Nel senso, ci sei sempre alle cose, però ci sei come chi, con che responsabilità, con te stessa e con gli altri e le altre, rispetto a quello che succede, cioè che stai facendo. Secondo me è quella la grande differenza, perché quando parlavate di attivismo proprio mi è venuta in mente anche l'idea di agire, cioè di fare così superficiale, che proprio perché c'è un fare altissimo, no? Si fanno tante cose, almeno a Milano, far vedere che stai facendo, però poi c'è uno scollamento, secondo me, cioè a me non mi basta, cioè non si va in profondità e non si fa un lavoro su se stesse e su se stessi. E quindi poi alla fine le cose non cambiano, nel senso, cioè tu e cioè sulla questione della moralità in realtà cioè sperimentarla pure io, cioè anch'io ci ricado spesso, e proprio secondo me, cioè io non ci vedo neanche male tanto che si hanno delle opinioni sulle altre persone, il problema è che però questa moralità secondo me non è la nostra, cioè quella, come si diceva, cioè non è fatta così, però mi fa piacere perché sono tutte le tutte che mi faccio migliori, mi fa piacere che non sono da sola e quindi mi hanno anche detto meglio in maniera più. E no, era per dire che la moralità appunto del potere, diciamo, cioè quello appunto secondo me. E questa delega, prima della salute, poi prima non so se prima o dopo, della salute, del giudizio, di tante cose, non so se si collega, però vabbè, metto sul piatto anche questo ragionamento, il fatto di dire preferisco non ragionare con la mia testa, anche se potrebbe risultare impopolare o potrebbe risultare conflittuale con altre persone vicine e care, e quindi preferisco delegare questi ragionamenti, queste pratiche ricalcare tutto quelle che funzionano di più, quelle più con successo. Non so se hai capito. Sì. Però infatti rispetto al dici fare, non si fa un lavoro più profondo, ma non si fa un lavoro profondo manco d'analisi, nel senso che, cioè, quando prima dicevo di pensare con la testa, che pensiamo con la testa del nemico, no? Cioè siamo in dei tempi molto scivolosi in cui se noi ci mettiamo a chiedere più stato sociale, per esempio, no? Loro ce lo danno col microchip sotto pelle, no? Ti dicono va bene, ok, metto più soldi nella sanità e tu puoi accedere magari a basso il ticket nella misura in cui ti fai impiantare il chip, perché così tutto diventa più efficiente. Oppure durante la pandemia ci sono state anche delle manifestazioni un po' di rottura, tipo quella a Napoli, no? E sono scesi per strada in un sacco di persone, ma lo slogan era tu ci chiudi, tu ci paghi, cioè è la logica dell'indennizzo, che per esempio Christine Delfini, un bel libro che mi sembra per una teoria generale dello sfruttamento, dice questa è una delle cose che dobbiamo abbandonare, perché io non posso farmi indennizzare l'alienazione oppure no, il rimanere dentro al mio ruolo di genere, cioè io non posso ragionare sul risarcimento, sull'indennizzo, per cui va bene, mi mantieni in quartieri dormitorio, mi continui a, però mi dai 10 euro di più, però mi dai il reddito sociale, però aumenti la pensione, però perché stai indennizzando la mia relazione, quindi vuol dire che tu non vuoi uscire veramente da questa società, no? Cioè in qualche maniera fai delle lotte per. Così, e una delle domande che ha animato tutte le riflessioni sulla militanza è quanto vuoi uscire da questo sistema? Cioè, alla fine, quando non ti metti in discussione, eppure quante volte capita che al di là delle dinamiche che diceva anche la compagna, perché è vero che i maschi prendono la parola, prendono la palla e corrono, cioè per loro è una cosa, è un privilegio assodato parlare in assemblea, no? Mentre una compagna di solito fa più difficoltà. Però al di là di questo, quante volte capita che si decida di fare certe azioni piuttosto che altre, anche perché quelle azioni sono più integrabili in delle vite precarie, in delle, cioè è come se si ribaltasse il privato e il politico, nel senso che allora io penso la mia azione politica non a partire dall'analisi di fase, dal capire dove sto messo, come sto messo, che cosa dovrei chiedere, se quello che chiedo potrà essere usato contro di me nella misura, ma a partire da quello che riesco a fare in quel momento. Va pure bene, però almeno un po' di onestà intellettuale, diciamoci che passa una passazione, perché domani ti devi svegliare presto e perché dopo domani no, cioè va bene pure così, siamo umani, però. Io su questo stavo pensando al punto prima, cioè questo che cioè chi è il nemico e cercare di capirlo, di fare un'analisi, cioè che vada veramente a cogliere il punto, anche senza correre il rischio di essere risucchiati dentro, e anche sempre dal capitalismo, perché anche, cavoli, tutta questa questione, cioè tutte le, non so, le richieste di diritti, appunto la legge sull'omo transfobia, cioè, non mi ricordo, anche quella. Cioè, la legge Zamba, dice. Sì, ti risucchiano dentro, che poi va a finire che cioè, ti fanno la legge. Mm-hmm. Chi se ne frega della legge. E, oppure anche adesso, nella quotidianità, cioè, a scuola, in giro, così, trovo sempre gente che dice ma oggi guarda le donne fanno le stesse cose che fanno gli uomini, sono ai vertici dei poteri, non so, la banca, appunto, i primi ministri, robe così, ci sono donne, e allora qual è il punto? E lì, caspita, io mi arrabbio tanto, perché io il punto lo vedo, cioè per me lì non è più una lotta, cioè lo so chi è il nemico, ed è anche dentro, cioè, è anche dentro al capitalismo, al sistema. E per me questa è anche una differenza tra militanza e attivismo. Ci vorrei mettere anche questa cosa, della consapevolezza che, cioè, insomma, c'è la lotta deve essere anticapitalista, perché dentro ti risucchia, tra le altre cose. Beh, allora mi collego a te, se nessun altro deve parlare, perché e secondo me, cioè sulla questione della militanza, adesso al di là che ricordi qualcosa di militare, volendo salvare del militare, tra virgolette, un po' di, come dire, di quotidianità, nel senso che adesso effettivamente le nostre vite sono più precarie. Che non deve essere usato come scusante, ovviamente, però è vero che le nostre vite sono più precarie, per cui mentre essere compagna fino a 10 anni fa, almeno parlo per me, e voleva dire non dover lavorare tutti i giorni, molti si vivevano nelle case occupate, fino al 2000 avevamo, cioè, un stipendio doppio rispetto a quello che c'è adesso, per cui questo ha fatto sì che intanto i militanti sono diminuiti, perché siamo ai minimi storici, penso, parlo dell'Italia, siamo diminuiti, con una situazione di vita più precaria, questo ha fatto sì che anche, cioè, per fare bisogna pensare, bisogna avere le forze per farlo, bisogna avere i luoghi che ci tolgono sempre di più e soprattutto vivere delle lotte. E mancando, non totalmente, non è che mancano totalmente le lotte, però mancando molte lotte, si viene anche un po' a svuotare la parola militante, perché militante che tu ti alzi la mattina e pensi a quello, ma non come un'ossessione, pensi a quello perché la tua vita un po' è quella, no? Vorresti fare quello, vuoi fare quello, pensi a quello. Oggi è un po' più difficile, no? Per tutti questi motivi. Poi lo fai lo stesso perché magari anche semplicemente non sapresti come altro vivere, cioè adesso non voglio sminuire la, però è quello che senti, quindi per cui. E in più il militante ricorda anche un po' lo stantio, cioè non per noi, però oggi se dice una persona sei militante, cioè mio nonno diceva i compagni parlando dei comunisti appartenenti al partito, oggi dire militante uno ti guarda in faccia, soprattutto tra generazioni, già siamo in un'epoca in cui le generazioni parlano poco tra di loro, anche a distanza di soli 10 anni, perché capita, perché il mondo va veloce, perché non c'è. E quindi, e poi il potere se l'è proprio rimangiata la militanza, cioè ci ha riassorbiti, cioè proprio ci siamo lasciati riassorbire, e l'altra parte è sempre stata più forte. Adesso questo non vuol dire che non bisogna, come dici tu, avere la visione della luna, però rendersi conto che di fronte è qualcuno che devi capire chi è, come si muove, cosa dice, cosa fa, come tiri, perché quello loro lavorano con delle forze che sono triple, quadruple delle nostre, quindi noi ci dobbiamo impegnare di più per farlo. In più, ripeto, mancano i contesti, cioè oggi si fa un po' la militanza a ore, cioè c'è quel progetto, c'è quello che, per carità, meglio che niente, nel senso, oggi è a ore, cioè io lo posso dire perché ho partecipato alla lotta no TAV nel pieno, proprio vivendola, vivendo lì, stando lì tutti i giorni. Quella era una lotta, le persone intorno a me sono cambiate, io sono cambiata, si sono messe in pratica delle cose. Senza quella roba lì, che era un po', come inteso io, un po' anche la comunità, no? Cioè, okay. Insomma, è un po' non sei un militante, cioè sei un solidale, un attivista, cioè per me c'è una differenza, e grasso che cola di solidali oggi, perché cioè, ti fanno terra bruciata intorno. E comunque anche gli attivisti, adesso non so se si offendono se li chiamo così, questi ragazzi comunque si spendono, Extinction Rebellion, cioè comunque adesso gli volevano dare la sorveglianza speciale, gli stanno dando danneggiamenti, cioè tra un po' gli danno devastazione anche a loro, speriamo di no, però dico, ci vuole anche un attimo, che se sei attivista ma esci un attimo un po' di più dal simbolico e dal rivendicativo del diritto, quello che, il discorso che facevi tu, è un attimo, cioè è veramente un attimo che passi dall'altra parte e non vai mica bene, cioè o comunque ti danno subito un monito, occhio, no? Per cui, e poi appunto, cioè, come dire, le generazioni giovani oggi, non lo so, dai 15 ai 25, non lo so, quelli che dovrebbero essere al massimo della loro potenza, cioè anche di forza, di tutto quanto, in che contesto vivono anche, poracci, nel senso, perché per me il nemico è ben chiaro a tutti quanti, cioè mai è stato il nemico più chiaro di oggi per me, e secondo me anche per gli altri, perché non è che noi siamo degli illuminati, cioè o delle illuminate, cioè magari ci spendiamo di più, abbiamo un contesto alle spalle, ci applichiamo, studiamo, andiamo a capire perché stiamo nei movimenti, per cui, però non è che gli altri sono meno intelligenti di noi. Cioè oggi, mai come oggi, il nemico è chiaro, tanto che a me quel cartello che è comparso in Francia, non siamo l'Italia, mi ha agghiacciata. Cioè, non siamo l'Italia, non siamo, cazzo, cioè, mi ha, lo sai già che è così, ma vederlo in Francia, mentre questi comunque per 2 anni di pensione, di vita loro, cioè stanno, vabbè, il contesto sociale è diverso, non voglio far paragoni, sì, ma fatto appunto di San Miguel Italia, noi che ci siamo, cioè come ha detto la Norvegia durante la pandemia, beh, tanto c'è l'Italia che sperimenta i vaccini, noi magari ce li facciamo tra 10 anni, cioè, per cui come mai ci siamo addormentate, cioè tutti quanti, e perché non è che la gente non sta male o non vede, cioè non sarebbe un po'... E allora perché no? Non siamo comunità in lotta, perché non siamo militanti, cioè quindi mi alzo la mattina e quella è la mia, il mio pensiero, nel senso. Io mi attacco immediatamente a questa cosa che hai detto tu, un po' che anche l'aveva detto Valentina prima, e in parte anche alle cose che avevi detto tu all'inizio, parlando delle cose che quando ne abbiamo parlato qui in consultoria ci avevano più interessato, delle parti del libro che abbiamo letto insieme, e a me ha colpito particolarmente, poi io su questo sono un po' monomaniacale, per cui è un argomento che mi interessa molto, tutta la parte in cui si parlava della formazione nel senso comune, per cui è chiaro qual è il nemico, ma è chiaro per comunque una minoranza, quantomeno appunto in Italia, ahimè. Ma è chiaro per una minoranza, perché la stragrande maggioranza delle persone che ci circondano sono ben dentro la formazione di quello che nel libro si parla di senso comune, di come questo senso comune è stato formato, forgiato nell'utilizzo appunto delle parole, perché una parola a un certo punto che prima aveva una valenza positiva all'improvviso acquisisce una valenza negativa, e come ti faccio passare questa cosa di valenza negativa di un termine o di una pratica, no? E io penso che una delle cose su cui ci dovremmo impegnare nel nostro poco riuscire a essere incisivi è trovare una qualche forma per andare a rompere questo discorso della formazione del senso comune. Perché, vabbè, cito aneddoti che magari ho già citato, ho ricitato, il mio giovane collega di lavoro, 25 anni immagino, ha fatto la prima laurea, sta facendo la seconda in giurisprudenza, è lì a fare il precario alla Merlin, e uno che dovrebbe comunque avere un minimo, anche per il fatto che studi legge, eccetera, un minimo di senso delle cose, e il problema è la borseggiatrice. Come te l'hanno fatta passare adesso questa cosa che il problema è la borseggiatrice? E cazzo! Poi tu con due parole magari ti esce... E in quel caso nella discussione con un ragazzo ho detto, ma forse il banchiere fa più danni al mio portafoglio di quanto non può fare una borseggiatrice che servirà proprio meno al portafoglio dalla borsa, se gli va bene mi trova 50 euro, ma se proprio gli va bene. Il banchiere me ne prende molti di più, il politico che gestisce l'economia me ne prende molti di più e noi neanche ce ne accorgiamo, non ci sono servizi delle Iene che facciano questo. E lì era, con questo ragazzo qui, era un senso comune via l'altro, la borseggiatrice prima, il livello di criminalità che scende con la latitudine, per cui più andiamo sud più c'è un tasso di criminali, e via così. Non lo far venire a Roma. No, esatto. E lì dici, cavoli. Che è pieno di borseggiatrici, sì, eh? Dici, non... Cioè, un ragazzo che comunque dovrebbe avere quattro strumenti in croce per inquadrarle queste cose, dargli la misura, no? E lì dici, vuol far l'avvocato, non giudice PM, che c'è un nostro. C'è un altro magistrato simpatico così, eh? Non lo so. E su questo a me piacerebbe sviluppare una discussione maggiore anche per capire anche quali possono essere le forme comunicative che utilizziamo per andare a rompere. Allora, per dire, la nostra locandina mi è stata criticata perché qualcuno mi ha detto che fa paura. Quella. Sì, e compagne, non giovani colleghi di lavoro. E però, allora, secondo me qui andiamo ancora bene, però c'è un livello di modalità di comunicazione su cui bisogna ragionare tanto, perché noi dobbiamo arrivare, noi abbiamo i nostri problemi interni di militanza, del fatto che appunto abbiamo un moralismo che ci blocca, abbiamo delle dinamiche interne che sono lungi da essere superate, eccetera, ma finché non allarghiamo un po' il cerchio, cioè bisogna riallargare sto cerchio e rifare in modo che attorno a noi ci sia un numero di persone maggiore in termini di solidali, ma anche semplicemente di qualcuno che capisce quello, magari non è militante, magari non ha la possibilità o la voglia o le energie o lo spirito per esserlo, ma è dalla tua parte in qualche modo, per cui se tu fai delle cose hai questa persona dalla tua parte e capisce quello che stai facendo. E su questo ho un mio chiodo fisso su cui martello, ma senza riuscire neanche a dare me stessa delle risposte. Mi piacerebbe anche sapere, non so se è uscita delle discussioni di questa cosa, come l'ho affrontata. Non è che, cioè, se non lo si fa noi in questi ambienti, in questi momenti, è già un ambito che può essere tipo preso e può venire accaparrato dallo Stato, dall'istituzione, nel senso che questa modalità di attivismo più che di militanza, cioè non so, l'istituzione, ad esempio, non so, il Comune di Milano, soprattutto io lo vedo nelle politiche urbanistiche di riqualificazione urbana, eccetera, e quindi il tema della partecipazione attiva, eccetera, eccetera, della condivisione, così, sono discorsi che sono parole che sta usando appunto l'istituzione, ma ovviamente le sta storpiando, cioè le sta completamente svuotando di significato e le sta cioè proprio annullando completamente, solamente che quelle parole passano. E quindi, cioè, addirittura ero stata una presentazione di un libro in cui parlavano proprio appunto dell'istituzione del comune che cerca, cioè va a caccia di attivisti e attiviste, di associazioni, di appunto persone attive, persone che in parte possono riconoscere dei problemi, sono disposte anche ad agire e intervenire, e in qualche modo le vuole fagocitare, catalizzare e deviare verso degli obiettivi ovviamente più digeribili, più pacificati, oltre, cioè, soprattutto per costruirsi un'immagine di condivisione totale, quindi completamente svuotata. Quindi, non so, il pericolo è che anche quelle persone che effettivamente possono in qualche modo attivarsi e ragionano e sono critiche, con questa particolare modalità e sensibilità dell'istituzione possano completamente, cioè, deragliare. Comunque è una cosa che diventa inefficace e anzi del tutto mistificata, cioè è una modalità che sta accadendo adesso effettivamente, prendere questa parte di cittadinanza attiva, più o meno, e dividerla quindi anche tra un attivismo buono, costruttivo, ovviamente sempre secondo i parametri lì, e invece un altro che è solamente conflittuale, debitivo, distruttivo, non importa niente. Quindi, cioè, si crea proprio una spaccatura e si allontana tantissimo, cioè, anche all'interno del nocciolo critico, del nocciolo duro delle persone. Su questo c'è stata una riforma legislativa organica che ha avuto proprio questo senso, cioè nel 2017 hanno emanato questo codice del terzo settore che ha dato una impronta iperfunzionalizzata a tutto il volontariato, le associazioni di promozione sociale, no? Sia di stampo cattolico, non cattolico, laico, però quello, cioè, lo strumento che è stato utilizzato è: io ti faccio partecipare alla gestione del welfare, io, diciamo, se tu assumi certe qualifiche, se ti sottoponi a certi controlli, se ti tieni conti in un certo modo, eccetera eccetera, hai dei privilegi, diciamo, dei rapporti di collaborazione privilegiati con lo Stato, per cui io ti affido interi settori, servizi, eccetera. Ma quello che bisognerebbe far capire agli stessi membri di quella è che loro così stanno riducendo tantissimo il pluralismo, perché queste associazioni, anche l'associazione cattolica, non è più libera di dare un'impronta anche valoriale alla sua azione. Cioè, non è che può a quel punto, no, ok, io mi accollo la gestione del centro rifugiati, però, no, come hanno fatto quei consultori, però metto le bibbie in tutti i cassetti, no, faccio passare i miei valori. Non lo permettono più neanche a loro, perché c'è questa tendenza, cioè ti devi uniformare, quindi la sussunzione. Però c'è una differenza, c'è proprio una differenza, non so, così. L'esperimento è stato fatto nel 2015 con l'Expo, in cui facevano, cioè, un conto è il terzo settore che già lavori sulla relazione e poi, tutta la parte, cioè, proprio emotiva rispetto a quelle persone, no? Cioè, passi dal canto e poi c'è tutto il mondo, cioè, quello che sta descrivendo lei è un'altra cosa. La rigenerazione urbana parlava, no? Sì, stai. Sì, no, no, no, no, con l'Expo, cioè è totalmente diverso. Cioè, sei un attivista, non ti va bene questo, cioè, tipo, ti coinvolgo e facevano i gruppi, si chiamano Expo Attivisti, ok? Cioè un ente privato che delle persone si sentivano motivate, ma non dovevano trasformare il mondo, non dovevano assolutamente mettersi in relazione, semplicemente dovevano promuovere il senso dell'Expo, ok? Questo è stato l'esperimento. E c'erano i centri di Expo Attivisti, ok? E si facevano anche le riunioni di persone che volontariamente non è che dovevano curarsi dell'altro, no, semplicemente danno il suo, cioè la sua promozione. Sicuramente poi sarà il curriculum che dice, ma io ho partecipato a questo, magari grafficato qualche lavoro, lo spero proprio, perché se no non trovo lo scopo. Però comunque, cioè, iniziamo, cioè, proprio su quello. E poi c'erano i volontari in Expo, in cui tu andavi lì e c'erano persone retribuite, precarie, sottopagate, eccetera, eccetera, che lavoravano nei vari stand, e poi c'erano questi volontari che ti dovevano raccontare la favola rispetto alla cultura, al mondo, eccetera. Non c'entra niente col terzo settore, perché il terzo settore di per sé è scritto puro della relazione. Ok, ma quello è che poi si è spostato, ad esempio, rispetto a Noro abbiamo un progetto mosso in cui mettono determinati soggetti del terzo settore, vogliamo promuovere la parte via Padova, Piazza Mosso, due bar, uno lì e l'altro di fronte, si spaccia palesemente. Cioè, comunque, c'è un ambiente, invece lì è la parte più fighetta, che è un po' come, cioè, non so, veramente un pugno, in cui coinvolge il terzo settore, in cui è vocato per portare avanti determinate politiche all'interno del territorio. Quello che sta descrivendo lei è un'altra cosa, cioè molto più. Dal punto di vista del capitalismo è molto diverso, cioè quello è cash, quello di mosso, diciamo, della parte del terzo settore è un po' quello che viene un po' dietro, non so come spiegarlo, come se devi rendere pulito l'ambiente. Vabbè, un'azione che questa sta qui a Milano, soprattutto in questa zona, stanno facendo abbondantemente con questo appunto tentativo di coinvolgimento dei vari cittadini, per cui hanno cercato di farlo anche per la piazza qua, hanno tentato di tirarci dentro. Cioè non ti curi della persona, capito? Il terzo settore cura la persona, no, e adesso, gioca su quello. No, il problema è che il terzo settore è una mentalità, nel senso che nasce nel campo dei servizi alla persona e della cura dell'altra persona, ma cioè il baracco amministrativo, no? Cioè questi sono gli strumenti, sono i patti di collaborazione, Bologna, Ferrara, Venezia, sono i baracchi amministrativi, sono casa mia, se tu cittadino ti prendi cura della viola, paghi meno tasse perché ti sei preso cura della viola, i progetti di rigenerazione urbana, cioè sono, nel senso, è una stimolazione, okay, della partecipazione. A Milano non, no? Se ne cura il terzo settore, nello specifico in questa parte. Al massimo il cuore della Iuola ci mette quelli che sono lavori socialmente utili o psichiatrici a lavorare nella Iuola, ok? Però non la cittadinanza, ma non è la cittadinanza attiva, no, certo, in cui vuole sistemare il proprio territorio per dare una possibilità in più di soldoni, cioè di cash. Cioè, questo, cioè sono un po' quello che stava descrivendo lei, è un po' l'orientamento ancora un po' più avanti rispetto al terzo settore, che sì, è semplicemente il comune a Roma, lo sbirro, il buono, volontario in maniera individuale. prima dovevi per forza passare dentro l'associazione, adesso tu puoi fare il volontario per il comune da solo, così, cioè il comune ti sfrutta senza manco passare per il corpo intermedio. Quindi sì, la tendenza è la disintermediazione, non ci servono più i partiti, non ci servono più i sindacati, ma non ci servono manco più le associazioni di promozione sociale, perché tu ti offri da solo, e ti offri da solo anche perché le piattaforme digitali concorrono a questa disintermediazione, per cui io, potere tecno digitale, arrivo direttamente a casa tua, non mi interessa, no? Diciamo, non è che devo andare nell'associazione di categoria a convincere un'assemblea di persone che si vede regolarmente di partecipare, perché io ti vengo a PA nella tua stanzetta a casa o sul tuo smartphone mentre vai al lavoro, e quindi il potere è proprio diretto verso le singole persone. Quindi sì, in questo senso, cioè, credo che se questo è il senso, sono d'accordo, cioè ci sono dei... La cittadinanza per produrre capitali contro il terzo settore, che semplicemente fa da mediazione del conflitto, cioè fa lo sbirro buono, cioè è un po' differente qua una, per quello, cioè quello che stava descrivendo lei, cioè che la cittadinanza attiva poi produrrà un capitale cioè, e poi verrà trasformata verso il quartiere, il territorio, eccetera. E il terzo settore fa lo sbirro, appunto, sì, più o meno quello, la dinamica che sta dando qua. Quindi si fanno quelli che sono nate prima, giusto? Ah, certo, ovviamente. Quello del territorio, ci mettiamo d'accordo. Comunque sulla cosa del senso comune, quella che andiamo, dice come si smonta. Cioè ci siamo posti vari problemi. Uno, come si smonta l'evidenza. Cioè, quando... Perché non è che adesso ti dicono faccio in un modo e poi... Cioè te lo sbattono proprio in faccia quello che stanno facendo, no? Quindi è molto più difficile andare a smontare il discorso, perché è palese, cioè loro non hanno... Diciamo, cioè non c'è nessun un componente del PD può dire, credere, obbedire, combattere, andiamo tutti quanti a fare la guerra in Ucraina senza se e senza ma, perché è così, cioè perché nessuno contesta, non c'è quel sottotesto in cui tu ti potevi infilare e dire guardate che andrà stanno raccontando tutta, è palese. Quindi questo è il primo problema di comunicazione, no? Perché se è così palese, sui vaccini, dici, sui vaccini c'è stata una cosa diversa. Ma perché gli accordi a parte, diciamo, tutte le parti dell'autorizzazione dell'EMA che erano segretate, ma perché gli accordi, i contratti di somministrazione non sono coperti dal segreto di Stato? Là però c'è un altro problema, cioè le persone non vogliono sapere fino in fondo, perché sapere fino in fondo significa poi non torni indietro, significa cagarti sotto perché non sai quello che... Adesso sulla questione degli effetti avversi ci siamo chiesti con l'assemblea del pass, che fanno con gli effetti avversi? Ne parliamo, non ne parliamo, ma tu puoi andare da una persona a dire esatto, che troppo male, no? No, però è un problema, no, cioè nel sì. Senso questo è un problema, perché succede, penso vi sia successo a tutte quante, di mi è successo, cioè, questo è provato, non l'ho detto io, non l'ha detto l'assemblea, no, Green Pass, ma questa era una cosa che veniva detta mentre c'erano le campagne vaccinali, che il vaccino del Covid alterava il ciclo mestruale, sì. Non si sapeva che faceva, ma comunque succedeva qualcosa, non si sapeva. Ora ci sono delle donne che hanno emorragie, dolori, cioè cose comunque che non so classicamente, cioè che prima non avevano, semplicemente questo. Che fai? Come diceva Gerita? Suggestionate. Gli vai a dire, no, guarda, forse potrebbe anche essere che... questa cosa dipenda. Però poi accanto all'evidenza c'è pure il nonsenso. Tipo adesso a Roma, non so se ce l'avete pure qua, c'è una pubblicità a Progresso contro la violenza sulle donne, e ci sono due sagome, un uomo e una donna, così, no? Ma tu non vedi la foto perché davanti c'è un riquadro grosso, colorato, con la scritta: la violenza contro le donne non deve rimanere nascosta. Ho capito. L'hai nascosta, cioè, tu. Questa è la comunicazione di oggi, per cui tu ti ritrovi che o è autoevidente o si violano completamente le regole del discorso, cioè la logica, il principio di non contraddizione del testo escluso. Cioè, vai, senti, i dibattiti in televisione è una completa violazione sistematica di qualsiasi regola convenzionale della lingua, cioè non c'è più la comunità linguistica. Cioè però con una grande abilità, io ascolto molto in trasmissione radio, nessuno risponde alle domande. No, questa è una grande abilità però, cioè questo penso che sia un po' studiato, nel senso non è proprio lasciato al campo, nessuno risponde alle domande precise che gli vengono fatte, ma guarda, ci sono stata proprio attenta, E quindi in questo senso dicevo ormai il nemico è evidente, come dici tu, perché te lo dicono in faccia, qua non si dimette mai nessuno, adesso non è che aspiro, no, cioè certo, chi se ne frega, no? Però cazzo, qua non si dimette mai nessuno, ti caga in ogni testa, sì, fanno le cose più, Donzelli è andato a secretare le cose sul 41 bis, adesso porca la madonna, cioè lo sanno tutti che non si fa, lui è là. E se lo rivendica anche con quell'altro che lo dice, cioè per dire anche i casi più eclatanti, no? Ormai tanto che cazzo dice nessuno, domani c'è un altro scoop, scuola Berlusconi ha sempre fatto così, dice una cosa il giorno dopo dice no, cioè, e fanno tutti così, è chiaro, vabbè, ma sono mica scemi, tanto nessuno dice niente, voglio dire, fai il pasticcione, anche in Europa cosa hanno combinato lì con le borse, le valigie, queste qua, quei sacchetti, cioè fatti anche male, tanto poi si sgomma, perché quelle le ho fatte anche male, quei sacchetti pieni di soldi che esci da, dai, cioè no, perché tanto non ti devi neanche nascondere, capito? Per cui il nemico è ben chiaro cosa fa, poi magari individuare, per, come dici tu, bisogna anche un po' studiare, capire, no? Perché succede quella cosa, perché c'è quell'app, perché c'è quel sistema che avanza in un certo modo, perché l'intelligenza artificiale, adesso poi che dicono, gli stessi che la creano dicono, chissà, adesso non voglio farla complottista, però ci sono strategie, esatto, quindi, vabbè. Nel senso è così palese, per quelli scrivono non siamo mica l'Italia, perché cazzo è così palese quello che succede qui che e noi muti, cioè il tutto con il linguaggio di sinistra, per cui è l'antirazzismo razzista, l'antisessismo sessista, l'antirazzismo classista. Cioè qua non si è ribellato neanche, adesso poveracci per carità, ma neanche chi ha subito un terremoto, che ovviamente all'inizio è chiaro, sei scioccato, cioè perdi la casa, perdi parenti, ma anche dopo, cioè il grado di, a parte di militarizzazione, di esperimento anche sulla tragedia, che è gravissimo, ma queste persone, ma neanche dopo anni, perché uno magari ci mette anche anni a riprendersi. No, sono state delle cose piccole. E chi è che non ti sostiene? Ti sostiene? Sono l'Aquila, ma sono meno di, penso, in 50. Cioè, lo ricordo perché c'ero pure io, cioè, e abbiamo caricato la finanza a via del corso. Però eravamo di più, cioè nel senso eravamo 50, la finanza era in 10 e quindi li abbiamo sopraffatti, però abbiamo fatto, cioè nel senso abbiamo fatto uno scontro, cioè loro sono comunque in 50. Secondo me è l'ultimo, quindi volevo chiedere anche semplicemente. Ok, io però non ho resto. Io ho 20. Dai, vediamo se ci sono. Lì ci sono, qua ci sono. Ti ridarò, ma adesso secondo me il senso comune non è solo questione di non capire, di non capire paura, ma è anche cioè nel senso la gente vuole essere una Berlusconi, cioè è che cioè, proprio è un modello di vita, e si sceglie da parte sta e la scelta è voler essere come questi che, cioè vorrebbero essere quello con i soldi, con la proprietà dei soldi che si diceva adesso, e non è come sono inventata, cioè, lo dicono, no? E quindi questo ciao. Cioè questo mi può interrogare anche se posso fargli chi è il nemico. Il nemico non sono, soprattutto con la pandemia, tutta la questione delle, tutta colpa dello Stato, tutti questi slogan a me mi hanno molto affaticata, perché secondo me in realtà il nemico non è solo quello visibile, ma siamo anche noi, cioè noi abbiamo una parte di nemico all'interno, e secondo me bisogna relazionarsi con questa cosa, cioè quindi però nemico interno, noi siamo un po' nemici, cioè nel senso penso che noi riproduciamo un po' l'ordine sociale che c'è, nel senso con le abitudini, con i gusti, con i bisogni, gli interessi, i desideri, e quindi finché non ne analizzi, cerchi di ricostruirli, tu continui a riprodurre più o meno, però finché lo riproduci tu sei un nemico, cioè in questo senso. Poi non vuol dire che vado a sparare in giro alla gente, però le vedo anche così, cioè per me c'è anche questa cosa che mi mette molto in difficoltà, per esempio vedo, vabbè non vado più altri casi, si aprono mille altri, perché quando c'è stata la pandemia a un certo punto io ho detto, con le varie leggi eccetera, non si va al lavoro, cioè io purtroppo non vado a lavorare, però il fatto che si bloccava tutto, io ho detto cazzo che figata, tu c'è il capitale che va in merda, cioè che figa, e la cosa che mi ha colpito è riuscire a beccare, tranne mia figlia che faceva i testini a casa, cioè che secondo me se la sono goduta e massimo rispetto a questa cosa, perché invece se vivevi in una casa un po' più normata, tatini, cioè l'hanno subita tantissimo, cioè ho sentito cose di genitori rispetto ai figli che gli hanno attribuito delle responsabilità allucinanti, tipo non so, uccidi tua nonna, fai morire, delle cose proprio aberranti. Vabbè, a casa mia facevano i festini e io ero l'unica, il mio compagno che avrei fatto pure dei festini con i miei amici, compagni, cioè, ma tutti terrorizzati, dicevo, ma che cavolo, cioè, mettiamoci d'accordo, no? Cioè, non andiamo a trovare i genitori, metti che sono lì, ipoteticamente quelli un po' più fragili, ti dicevano sulla fragilità, ma ci becchiamo comunque, cioè non smettiamo nella socialità. Invece tutti normati su o la telefonata, fare gli aperitivi in videochiamate, cioè io ho dovuto costringere le mie amiche a beccarmi di nascosto nel parchetto a bere una bottiglia di vino, cioè che mi sembrava eppale, la strada è tutta nostra, cioè queste cose un po' molto adolescenziali, eppure non è accaduto, cioè eravamo tutti assolutamente presi in quella paura e senza vedere che era la nostra alternativa, cioè io l'ho vista così, proprio per me è stato veramente bello. Torna al capitale, è il nostro momento finalmente, zero. No, cioè, così questa paura così profonda, certo. Perché nessuno non ha detto vabbè facciamo, ci becchiamo comunque? Non lo so. Cioè perché? Non lo so, basta interrogarsi perché risposte. Però attimo, io ho una domanda, però una domanda anche verso me stessa, no? Tu dicevi giustamente, il nemico è anche tra di noi, diciamo così, va. E sono d'accordo con te, perché se c'è chi traduce quello che è il terzo settore, che può essere tranquillamente semplicemente un lavoro, no? Nella maggior parte dei casi, senza diventare per forza sussunzione, no? Dell'oppressione. Ma può essere semplicemente un lavoro, quindi non è che non è che per forza un terzo settore deve essere amplificazione di questo, cioè tu puoi farlo anche come consapevole di stare là e dici io vado a non timbro il cartellino perché non c'è il timbro del cartellino, ma vado, faccio il mio lavoro e torno a casa, no? quindi c'è un nemico, c'è un nemico che invece si riconosce, vorrebbe essere in quel modo. E poi c'è il nemico. E io mi domando, da chi dobbiamo iniziare? Cioè, forse non lo so, è tutta una domanda, però forse dobbiamo iniziare dal nemico vero. Ma non perché, cioè, ripeto, io poi sono abbastanza fumina, quindi sono incazzata nera con chi invece ha sussulto completamente, anzi vorrebbe e rivendica che è nel giusto. Che ne so, che appunto che era giusto chiudersi dentro casa, che era giusto fare quello, che era giusto fare quell'altro, quindi per me sei un nemico, sei comunque una persona con cui non ho più vagamente piacere a passare del tempo e ho anche difficoltà. E non è che non è cioè che è meno nemico, però non ne sono sicura se questa poi è la soluzione, diciamo, finale, però mi sento più di avere l'esigenza di puntare il dito verso il nemico in alto adesso, per provare a buttarlo giù. Non lo butteremo giù, ma l'esigenza forse personale che ho più è quella, ripetendo che comunque non voglio più parlare, cioè come bambini io non voglio più parlare con quelle persone, le ho cancellato pezzi, però per lavoro, per altri motivi mi trovo comunque poi con quegli stessi, alcuni non sono nemmeno nemici, sono semplicemente persone che non hanno proprio strumenti politici per vedere niente della realtà, cioè nel senso vivono la loro vita come se non la politica non esistesse. Quindi ho imparato in questi ultimi anni a differenziare un po' tra chi comunque è colpevole, ma cioè è colpevole di aver assunto appunto il pensiero del sistema, del potere, in maniera un po' inconsapevole, colpito dalla paura, e chi invece l'ha proprio sussunto perché no, questa è l'unica cosa giusta che esiste. Quindi ci sono delle sfumature sicuramente, però a me però personalmente mi sembra più che, non lo so, ho voglia di urlare 420, non che non sia chiaro, perché l'abbiamo ormai ripetuto, cioè ormai sta là, alla luce del sole, quello è il nemico, l'hai visto, si è definito, è detto, però secondo me ancora c'è bisogno comunque di puntare il dito, di mettergli un po' più luce e di metterlo ancora più in evidenza, perché penso al PD, per fare un esempio, no? Il PD per quanto ci riguarda è uno dei maggiori nemici, che Berlusconi in confronto non è niente, cioè per fare un po' due pesi due misure su sta roba, e io vedo ancora, guarda per la legge Zanna, tanta gente, poi legge che non so se l'avete letta, ma che cambia niente. Introduce una cosa che può diventare pericolosa dopo, cioè non nell'immediato, ma possibilmente poi diventa peggio, ed è fatta dal PD. Ed è fatta in teoria per difendere una minoranza, delle minoranze. E quindi è il solito gioco in cui io faccio la mezza legge, in cui provo fintamente a difendere una cosa, in realtà introduco solo una legge in cui, che poi con una mossa ad uncino da dietro potrà essere usata contro qualcun altro, e che siamo noi comunque, e quindi un po' sento puzza di bruciato quando sento queste cose, e quindi penso ancora no, la gente effettivamente che il PD è un grosso nemico ancora non l'ha percepito bene bene, e per cui lo devo ancora identificare. È chiaro un sistema, una logica che c'è dietro, quello sì, un po' alla luce del sole, ok, però ancora lo devo dire che il PD non è sinistra, che il PD è al servizio del neoliberismo, è al servizio del patriarcato ed è al servizio del capitale, cioè non c'è scampo, cioè quello è proprio il partito che rappresenta i nostri tempi e il male del nostro tempo, almeno dal nostro punto di vista. No, secondo me infatti ci sta, cioè nel senso, più come controinformazione proprio sul PD potremmo stare ore, cioè, no, sono molto d'accordo, però, ma, me, però cioè, c'è un punto che è quello di non togliere responsabilità alle persone, però c'è solo quello, cioè nel senso non dire tutta colpa dello Stato, perché quello che è stato detto, no? È tutta colpa dei cattivi, dei PD, no? Non è tutta colpa, il PD è la merda assoluta, cioè proprio è il male, ma non è tutta colpa del PD, cioè come c'è questa differenza qua? Cioè il PD non sarebbe niente senza di noi. Cioè, è il collaborazionismo, infatti. Sì, no, collaborazioni, sì, certo, sì, cioè, sì, sì. Che è anche figo, perché vuol dire che allora vuol dire che tu prendi consapevolezza di quanto sei importante, no? Quanto vale la tua, cioè nel bene e nel male, no? Cioè la tua agire. Io volevo invece riprendere il discorso che facevi tu sul senso comune. E cercando di allontanarmi un pochino in questo caso dal nostro territorio, dal nostro contesto geografico italiano, quello che probabilmente non è vero, ma è un po' forse una sensazione comune, è che negli ultimi decenni le lotte sociali siano un po' diminuite. Probabilmente questo non è assolutamente vero. Però al di là di questo, la mia sensazione di un vissuto personale è che per quell'anno è stata la mia, diciamo così, proprio esperienza personale in termini di mancato riconoscimento, anche per colpa mia, per la mia identità, è che in qualche modo io ho sempre visto che il rapporto tra cultura e politica, per quella che è stata la mia esperienza, ha visto una progressiva tendenza delle persone con cui io mi sono trovata a condividere, non nel mio stretto ma nel senso più largo di questo cerchio, a un rifiuto di tutto ciò che era politicamente connotato, il tentativo di in qualche modo solo sfiorare un qualcosa che fosse politico. Io vedo che nessuno invece ha fatto di tutto rispetto a tutto ciò che conta, quindi questo per me è comunque sicuramente un grande risultato. Tendenza del senso comune a in qualche modo cercare di alleggerire, qualunquisticizzare, individualizzare, privatizzare, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altro lato, diciamo che in questo rapporto tra, diciamo così, trasformazione del senso comune, sicuramente perdita di ogni riferimento anche in termini di linguaggio e di potere che in qualche modo da un punto di vista politico in questi ultimi decenni abbiamo visto, basta soltanto vedere dove la Russia anche dal punto di vista storico, e quindi in questo senso quello che oggi appunto vedo più problematico è il rapporto tra politica e cultura in termini molto così generali, con queste parole che significano tutto e niente, in particolare il termine cultura, benvenuto cazzo, usando questa parola orribile, però in qualche modo dal punto di vista del senso comune, quindi ancora prima che del, diciamo così, di ciò che può essere un'azione collettiva, cioè il potere di quello che è il senso comune in termini di cultura, che non è più neanche cultura, è soltanto banalizzazione e senso comune e in un qualche modo forte riduzionismo di tutto, cioè forte compressione della sfera politica che non esiste se non in piccoli angoli, e quindi ancora prima che è un nemico, diciamo così, politico, c'è un nemico ancora più probabilmente schiacciante, che è quello della politica, tra virgolette. E quindi in un qualche modo, sto proprio dicendo sensazioni personali, però io sento abbastanza fatti, in un qualche modo, cioè, diciamo così, che non so, se dovessimo andare a fare un sondaggio impossibile da fare, magari andremmo a verificare che il 75% delle persone non sanno neanche quello che pensano e non vogliono pensare, perché già soltanto fare un ragionamento è un po' problematico e forse non ne siamo più neanche tanto capaci, perché non ci sono spazi nei quali cerchiamo di costruire un ragionamento, c'è solo avere una presentazione di un libro e avere la possibilità di poi aprire un discorso e essere esatto con questo e che bisogna in un qualche modo visibilmente fare. Quindi già soltanto un ragionamento non si fa. Avere un'opinione o sapersi costruire un'opinione a volte dice anche per me, che mi piace tanto riflettere. E al di là di questo poi c'è un altro punto che ora mi sono dimenticata, però c'era il finale della faccenda, che quindi appunto non si riesce ad avere uno, cioè è molto difficile avere degli spazi collettivi di riflessione, avere la capacità di avere appunto una, non lo so, delle linee di tendenza collettive ancora prima che di azione collettive, e questo per tanti problemi, non soltanto per problemi nostri organizzativi e storici e anche messa d'accordo, no? Di quelli che possono essere le modalità, gli obiettivi, i tempi, tutto quanto, dal teorico al pratico, e tra le due cose probabilmente il teorico è sempre quello più complesso. Però appunto proprio dal punto di vista teorico, che secondo me è forse uno dei nemici principali che sono in un qualche modo dilagati forse sempre più, sono il fatto che sta vincendo appunto questo delegare, questo non saper prendere partito, questo non saper che cosa pensare. Che da un certo punto di vista per le persone che poi invece amano farlo può voler dire costruirsi completamente senza nessun genere di influenza. Dall'altro lato però ovviamente nel momento in cui c'è diciamo così meno mediazione culturale tra virgolette si è allargata molto di più l'ignoranza, e quindi magari delle minoranze politiche che riescono in un qualche modo ad avere un messaggio più violento, però anche più semplice, riescono in un qualche modo ad attecchire con una, diciamo così, efficacia incredibile, questa siccità estrema, sicuramente basta che arrivi una burrasca che praticamente il suolo non assorbe niente, scivola tutto via. Quindi, non so, secondo me appunto, per quella che è la mia esperienza, è semplicemente la problematica principale legata a questa tendenza che io vedo proprio anche quasi da un punto di vista etico ad avere una specie di schifo verso ogni genere, non so, anche sul lavoro con le mie colleghe che hanno sicuramente avuto come donne un'esperienza personale molto diversa da me, anche da me familiare. Io vedo che per loro già soltanto il fatto di portare all'interno della nostra condivisione come colleghe di scuola una riflessione banale su che cosa magari può voler dire da un punto di vista umano, ed educativo, diciamo così, un rapporto con uno dei bambini che abbiamo in carico, e c'è soltanto la preoccupazione di invadere quello che è, diciamo così, il territorio dei genitori, cioè non c'è nessuna possibilità di fare un ragionamento educativo con degli insegnanti. Quindi anche soltanto questo è già politico ormai, cioè siamo arrivati qua. E qui non c'è uno spessore culturale che alcun genere, già soltanto se io all'interno di un cartellone voglio inserire una piccola didascalia, la collega non è che neanche dibatte con me. Questo è lo sfogo personale. Non è che la collega dibatte con me dicendo no, io penso così perché. Cioè neanche io penso così perché. No, paura, terrore. Quindi c'è un'emotivizzazione gigante e una capacità di condividere in questa cultura e in questo diciamo così, equilibrio attuale che vedo là fuori. Quindi insomma relazionarsi con questo senso comune è molto difficile perché ti caccia via già soltanto se hai blocca o se non ti conformi al fatto di non creare problemi, di non esprimere l'opinione, cioè non puoi neanche più fare un ragionamento, neanche esprimere l'opinione, neanche fare una domanda. Cioè non puoi essere un individuo, quindi questa iperindividualizzazione è un svuotamento totale. Io volevo dire una cosa così, che però non in senso, cioè la vorrei dire in maniera costruttiva, anche se potrebbe non sembrare. Cioè, io quello che un po' colgo tra chi in qualche modo ha una sensibilità, chi si riunisce, chi fa qualcosa di, diciamo, chiamiamolo così, militante, attivista, insomma, mettiamolo in questo enorme cerchio che poi adesso è molto sfumato, le associazioni, cioè tutto questo magma, fino a chi fa una critica invece più radicale al capitalismo, cioè stiamo riproducendo un meccanismo di frammentazione che poi è diventata anche identitaria e di gran lamento, che, di cui io ho proprio un'esasperazione, proprio mi dà fastidio sentire a volte anche le cose proprio anche più intelligenti, più, ma che rimangono dei gran lamenti, perché il lamento è un'altra delle cose che un po' è tipicamente italiana, non so, perché lo fanno anche però c'è molto già nel nostro modo di essere, quindi ce lo trasciniamo. E in più credo che sia frutto di questi ultimi, se non altro, 40 anni in cui piano piano ci hanno, come dire, tagliato le gambe e siamo sempre più frammentati, in scazzo tra di noi, a fare le pulci. Mi hai fatto venire in mente anche tu il nemico interno e il nemico esterno, cioè non c'è poi così tutta questa voglia di stare insieme, cioè io ho un po' questa percezione, ma sia all'interno delle aree sia all'interno di... c'è frammentazione e molti dei gruppi che nascono adesso nascono con una base più amicale, che può anche andare bene, ma manca la base politica. Cioè io in un gruppo non devo trovare l'amichetta con cui allearmi, io devo trovare una compagna, poi se anche nella vita è una mia amica va bene, e se ci sono che... perché questo crea delle... non crea dei gruppi militanti, crea dei gruppi di amici, poi qualcuna ti sta più simpatica, qualcuna meno, quindi qualcuna la caghi di più, cioè non c'è il confronto politico acceso anche sulle idee, sulle cose che poi ti portano magari anche a fare, no? In più ognuna sta nel suo cantuccino, no? Cioè ognuna ha il suo ambito, la città non aiuta in questo perché è grande, le distanze, poi magari fai parte già di aree un po' stabilite, magari arrivi anche giovane, sei già in un circo, cioè ci sono tanti, poi forse i giovani si amalgamano più di quanto noi ci si pensa, no? Perché per cui la città è frammentata e noi riproduciamo quella frammentazione che al potere tanto fa piacere, perché ma quelli già litigano tra di loro, già scazzano, ci facciamo le pulci, e infatti il no green pass all'inizio, al di là della questione ideologica, cioè tu ancora prima di andare da dei compagni a chiedergli ma perché partecipi? Ah, quello sta partecipando perché allora, ma dove andiamo? Cioè lo dico non per smontare gli animi, per carità, se no non sarei qua che ho quasi 50 anni, cioè nel senso, però perché quella logica lì che diceva lei, noi ragioniamo come il nemico vuole che noi ragioniamo, cioè agiamo, quindi ci isoliamo, non comprendiamo le realtà in cui siamo, cioè è un continuo riprodurre meccanismi che ci stanno disgregando, ci facciamo le pulci, quella cosa. E lo vedo anche questo, l'ho chiamato anche identitario, nel senso come identità politica, ma anche come identità umana, cioè per me questa è l'epoca della grande crisi identitaria in generale, no? Che in parte anche rivendicativa e ci sta, per cui si può parlare più tranquillamente, è una parolona, però come dire, è uscita un po' di più questa questione delle identità anche di genere, che sono anche, però rispecchiano anche il sentire delle identità dell'umano che sono in grande crisi, no? Per cui anche su questo bisogna, e anche lì ci si scazza, cioè non è che si ragiona in maniera costruttiva, si litiga, c'è l'altro, forse con un attenimento un po' diventiamo il nemico, cioè mi sto chiedendo questo modo di fare politica dove ci porta, cioè cos'è che ci sta, dove ci conduce, no? Sempre più frammentati, sempre più con dei distinguo che a volte non li so più nemmeno io, nel senso che a volte dici beautiful, cioè nel senso non sai più neanche perché un conto puoi anche avere delle opinioni politiche diverse su cui ti scorni, ma ben venga quel cacchio di scornarsi sulle idee, non su quella mi sta più simpatica, quella no, quella però appartiene lì o quell'altro ha fatto lì, ma è tutto così. Milano è anche molto così, sempre stata un po' Parlamento, io ho sempre chiamato così il Parlamento di Milano, però non è che solo qua, cioè. No. E allora cioè si sta perdendo un po' la bussola anche di dove, perché forse ritorna alla questione originaria lì della comunità in lotta, cioè dove siamo. Certo, se per me chi incontro, dove sono degli estranei quasi perché non condividi niente, hai pochi terreni comuni e non hai spazi comuni, cioè non dico che uno è un estraneo, però uno può essere un estraneo a livello personale, può essere una persona con cui ha una sintonia politica, per cui fai le cose e stai nella militanza insieme. Questo contesto qui dov'è? Cioè nel senso, boh, forse ne sono fuori io, non lo so, o da parte c'è, ma si crea, ma chi lo crea, le persone? Cioè non si crea, perché non c'è, qualche ostacolo c'è, perché non si crea? E le volte che si tentano di fare delle cose insieme è difficilissimo, Però perché mi posso attaccare, visto che mi hai segnalato una cosa che l'altro giorno dicevamo molto fresca, questa questione dell'identità. Beh, se parti dall'identità precostituite, perché ancora ci stanno delle identità precostituite, anzi si sono iperframmentate, no? Cioè una proliferazione di identità, di sigle, di modi di nominarsi, di autoetichettarsi e quindi anche un po' di autoetichettizzarsi, i contesti di lotta non si creano perché ognuno apre un terreno di lotta a partire dalla propria identità precostituita. Invece qui c'è, non ho capito questa cosa quando è successa, cioè io mi soggettivo politicamente nel momento in cui sto dentro a un campo di problematizzazioni, mi posiziono nei confronti, cioè io oppresso mi riconosco in base all'oppressione che viene esercitata su di me. No? Cioè non è che io ci parto a riconoscermi come oppresso prima che l'oppressione venga esercitata, quindi ogni volta che io scendo in campo contro un'oppressione si delinea un campo di identità possibili, no? Invece noi ce lo facciamo prima, cioè adesso parlare della tecnologia, soprattutto delle biotecnologie, sarà un panico nei prossimi mesi, un panico. Perché non si parte dall'analisi di che tecnologia, come viene utilizzata, quali sono i possibili effetti, su cosa incide e allora come mi posiziono, ma si parte dal io proprio identità, faccio questo dato uso della tecnologia, allora la tecnologia è buona in sé, oppure io non ne faccio uso, non ne ho bisogno, allora la tecnologia è male in sé. Cioè, a me mi sembra rovesciato un problema. Invece tu ti definisci a partire da un po', cioè, quello che ti viene addosso e come tu reagisci a quello che ti viene addosso, no? Almeno credo che questo sia anche un fatto, cioè, io non è che in senso donna non si nasce, si diventa, no? Quindi io, cioè, sto sempre in costruzione di questa soggettività. Cioè, come sono sempre alla ricerca di che cosa vuol dire essere una donna dentro a questa società, nel senso di soggetto politico, quali sono i campi dove deve agire la mia soggettività antagonista, dovrebbe essere così. Invece mi sembra che c'è un sedicentismo un po' troppo esasperato, per cui poi ognuno ha l'identità sua, cioè la trovo cioè la crisi dell'identità però si manifesta con un'iperproduzione di identità a prioristiche. Questo non si crea nei contesti. Non ci vai a quella manifestazione perché ci stanno le piazze, non il pass. Non ci si va perché ci stanno i fascisti, non ci si va perché c'è sta la signora fuori di testa che dice che ci stanno i UFO. la guerra in Siria non riconosco che è un'aggressione imperialista perché ci stanno tanti fascisti rossobruni, le cose non sì. Ma forse in Italia siamo sempre stati anche abituati a immaginare un po' un modello che sia quello della grande partecipazione di massa, della grande adesione. Forse anche questo è qualcosa che sicuramente in parte è già stato ripensato, non lo so come spiegare, però forse anche l'idea di dover avere una relazione con l'esterno e quindi appunto io sono interna, sono esterna, ti insieme anche io sono interna e sono esterna oggi colpa domani io sono non lo so praticamente io sicuramente per il mio vissuto personale sono molto diciamo così, fragile in termini di energie di prospettiva e sicuramente dal punto di vista lavorativo questo mi condiziona tanto in termini di esperienza è questa e questo sicuramente non è una in termini appunto di convergenze come dicevi tu secondo me non c'è la volontà di riconoscersi come non so, come comunità antagonista, c'è proprio una repulsione verso questo genere di adesione. A volte anche quasi contro i propri interessi personali, questa qua è anche la cosa assurda, no? Siamo arrivati addirittura qua, come se il più volontario per qualcosa che non si sta bene. Non c'è un modello, cioè il modello culturale è diventato tiriamo a campare e io speriamo che me la cavo sì. E l'altra io speriamo che me la cavo sì. Ci vediamo grazie andrà tutto bene andrà tutto bene questa però è l'ultima perché è più recente però invece rispetto al Covid ci tenevo comunque a dare un feedback personale a me personalmente io non ho mai preso una posizione contro, né da un lato né dall'altro, ho fatto delle scelte. L'altra voce invece che nel momento in cui mi è capitato di sentire dire da un ragazzo che ci stava servendo qualcosa da mangiare, però dobbiamo pur lavorare, del resto queste persone fragili a un certo punto insomma quasi come a dire se devono morire che muoiono, no? Quindi anche dall'altro lato questa narrativa del ognuno per sé è anche questa una narrativa che a me ha impressionato negativamente. Ovviamente ognuno deve avere la sua libertà di scelta, però allo stesso tempo dobbiamo anche cercare di avere io credo una sensibilità e io personalmente lavorando nella scuola per un discorso egoistico probabilmente se non avessi lavorato nella scuola mi fatto scelte differenti quando mi sono vaccinata perché mi sa che cazzo di effetti mi ha fatto questa roba che non so bene perché la mia cultura mi dice si riconosce questa roba qua e l'ho fatto questo cazzo di vaccino perché era obbligatorio e poi spesso e volentieri sono stata un pochino attenta alle mie relazioni sociali con il mio relazionale più che altro per tutelare appunto un pochino non so bene neanche che cosa tanto è vero che poi l'unica cazzo di persona che vedevo senza mascherina è uscita a bersi una birra una sera prima di Natale e comunque alla fine questo Covid è arrivato per fortuna è una parte di un po' di Covid non era quella che forse lo so così pericoloso come dicevo, una mitizzazione di che cos'è pericoloso, cos'è pericoloso, prendersi il Covid, è pericoloso farsi il vaccino, io non so, la mia cultura medica esattamente che cosa si riconosce. Anche qui secondo me ci sono tante cose da fare, nessuno deve guidare nessun altro. Però appunto mi ha fatto anche impressione relazionarmi con quelle persone che invece in qualche modo pensavano solo al loro interesse economico, alla riapertura. Sembriamo tutte molto provate. Però è stata una bella conversazione. Un tacco di spunti. Poi, questo per chiudere, almeno a noi piacciono le iniziative, non tanto perché dobbiamo presentare il libro e quindi dobbiamo parlare del nostro libro, quanto piuttosto perché escono spunti di riflessione su cui poi noi torniamo, magari rimuginando sullo stesso argomento sul quale già abbiamo discusso magari 1500 volte, però ogni contributo ci almeno per noi ci permette sempre di mettere un tassellino in più, vedere una cosa in più, mettere a fuoco in maniera diversa, guardare un punto di vista, e come se fosse del materiale nuovo anche se si parla della stessa cosa. Quindi grazie a voi che siete intervenute, perché ci avete permesso comunque di mettere a fuoco altro che ci ha magari sfuggito, e quindi grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Tutte grazie. Comunque sul blog della coordinamenta, che è coordinamenta.noblogs.org, tranne il libro trovate tutto scaricabile in PDF, quindi tutto quello che abbiamo prodotto di scritto è scaricabile. Se non è scaricabile è stampabile, perché magari invece è messo in testo nel blog, però trovate tutto, insomma, quindi qualcosa di... Anche l'audio poi mettete della giornata. Noi mettiamo anche l'audio. Sì, sì, anche l'audio di altre iniziative che abbiamo fatto, potete andare a trovare comunque... Siete voi. Il podcast.